Dagli studi fuori norma di Italian Podcast Network, con le avveniristiche attrezzature scartate dal terzo mondo, condotto da un coraggioso manipolo di brutta gente e col fondamentale patrocinio di Morgan, va ora in onda Dietrologia Videoludica. Il gioco un attimo, per piacere. Metti il pad sul divano, metti in pausa, dai. Non so se mi stai sentendo, ma secondo me sì, e mi stai ignorando. Questo mi fa incazzare non poco. Il pad, metti in pausa quel cazzo di gioco e metti quel cazzo di pad sul divano e ascoltami. Tu lo sai chi sono io? Io sono quello che ha creato quel cazzo di gioco che stai giocando. Sì, sono io. Sono il cosiddetto game designer. Io sono il regista, io sono il creatore, io sono Dio. Potresti anche farmi la cortesia di ascoltarmi. Metti in pausa il mio gioco. E ascoltami. Non è possibile, non mi ascolti. Non sai neanche chi sono, non sai neanche se io ci sono. Metti in pausa il gioco. Voglio parlarti del gioco stesso. Voglio farti vedere delle cose che tu non hai neanche guardato. Andavi avanti dritto, spedito, come se ci fosse un nastro trasportatore, e non ti sei accorto di quello che stava succedendo attorno. Non ti sei neanche fermato un secondo ad alzare lo sguardo e guardare i colori del cielo. Ci abbiamo messo 3 settimane a capire quale cazzo di colore utilizzare. Ho mandato 2 stronzi a fare delle fotografie sopra il nostro palazzo. Metti giù quel cazzo di pad e parliamo. Anzi, no, io parlo e tu ascolti, ma tu mi devi ascoltare. Metti in pausa, ferma, brucia quel cazzo di gioco, ma ascoltami. Perché non guardi quello che ti ho detto di guardare? Perché non ascolti quello che ti ho detto di ascoltare? Cosa cazzo stai facendo? Scusami, me lo spieghi? Stai giocando, stai sparando proiettili senza neanche vederli. E che cazzo faccio giochi a fare se tu non mi ascolti, non mi guardi, non senti, non vedi? La colonna sonora, presente quel brano che neanche hai sentito perché c'erano le esplosioni troppo alte? Abbiamo chiamato un cazzo di violoncellista a suonarla. Quella merda di violoncellista l'abbiamo chiamato e ha suonato. Non c'è neanche fatto caso, non te ne sei neanche accorto. Ma io che cazzo faccio i giochi a fare se tu non manco li guardi? Brutti stronzi, pezzi di merda, giocate, spendete, a volte non me li pagate neanche perché ve li comprate usate o li piratate. E per che cosa? Noi che cosa facciamo tutto questo? Mi piacerebbe poter essere considerato artista, invece no, sono un marchettaro di merda. Faccio le cose perché possono piacervi. A me piacerebbe mettere 2 froci che si inculano nel mio videogioco. Mi piacerebbe un casino, non me ne fregherebbe un cazzo, una donna che viene stuprata. Sarebbe bello se io potessi fare tutto questo. Sarebbe ancora più bello se tu fermassi questo gioco e smettessi di giocare. Perché se tu giochi, ti perdi il 90% di quello che ci ho messo dentro. Ora, o metti in pausa sto cazzo di gioco, o ti giuro che questo è l'ultimo gioco che io faccio. 1x16, l'occhio della madre, questo penultimo episodio di dietrologia videoludica di questa primissima stagione, che potrebbe anche essere, a detta di alcuni, anche l'ultima, però speriamo ovviamente di no. Sono come al solito Simone Pizzi, torno alla conduzione di questa trasmissione dopo qualche episodio di assenza giustificata, come sentite anche dalla voce sto praticamente morendo, e speriamo insomma di portare a termine anche questo episodio. Questo episodio, l'occhio della madre, che ci lascia un po' far capire un po' quello che sarà più o meno il tema, ed è la seconda puntata autorata dal nostro grande mitico Alex G. Raccuglia. Buonasera a tutti, ciao. Ciao Alex, tutto a posto? Sì, sì, sì, una bella giornata, piacevole e positiva. Ok, se metteremo qualche blooper sentirete cristoni che scendono da ogni genere di divinità e religione. In tema con la serata, i cristoni escono dalle fottute pareti. Dovrebbe arrivare prima o poi anche il mio socio, anzi il nostro caro compagno di viaggio, che è Stefano Big Joe Biggio, che però, come sapete, insomma, sta pulendo la macchina del vapore e sta guadagnando fottiglioni di dollari in Svizzera. Ma questa sera, proprio per parlare di una cosa particolare come quella che insomma Alex ha improntato come tema della puntata, ci abbiamo un ospite. Ci abbiamo un ospite che è attinente, perché con i videogiochi, diciamo, in maniera trasversale c'entra, e c'entra e come, ma soprattutto c'entra col tema primario, che è quello del cinema. E abbiamo Alessio, che sicuramente conoscete se seguite il suo canale su YouTube, che è Ore di Orrore. Ciao Alessio. Ciao a tutti. Benvenuto. Grazie mille. È una specie di incontro trasmediatico, quello del podcast tradizionale con uno youtuber. Come si chiamano youtuber? Sì, sì, sì, sì, sì. Che dici? Vuoi parlarci del tuo canale? Intanto introduci magari per quei pochi, insomma, sì. Che sicuramente... Allora, niente, Ore di Orrore è un canale che ho aperto circa 3 anni fa e praticamente si occupa di cinema horror, ma l'horror vecchio stile, quindi diciamo che nasce prevalentemente per far conoscere, diciamo, tra virgolette, le nuove leve e far scoprire alle vecchie i titoli che hanno caratterizzato il mondo del cinema horror in generale, quindi horror e fantascienza, tra virgolette, insomma, il cinema fantastico per antonomasia, diciamo che, tra virgolette, ecco, si può definire come un raccoglitore di film. Che poi ho visto, tra l'altro, ascoltando alcune tue recensioni, sì. Ho ascoltato ovviamente alcune cose che avevo visto da ragazzino, ma ero rimasto impresso in maniera particolare un film sui morti viventi, sui zombie, sì. Che c'era sta scena di sto zombie che stava su sto lettino e diceva: è orribile, mi sento decomporre, no? Ah, sì, sì, sì, certo. E mi è rimasta sempre impressa questa immagine, questa scena, e in realtà poi non l'ho mai più concretizzata, non sono mai riuscito più a vedere, e grazie a te finalmente sono riuscito a trovare, insomma, i film che mi interessavano, perché ultimamente mi hanno preso proprio il filone zombie, Alex, insomma, gli amici miei lo sanno, c'è proprio il filone zombie o il filone catastrofistico, quindi anche io vado poi, a periodo, che poi in questo periodo, a questo arco di tempo, diciamo, il filone zombiesco, tra virgolette, è tornato in voga anche grazie a telefilm come The Walking Dead, e quindi diciamo, ecco, stanno spopolando il mercato, l'hanno rispolverati dagli anni 70-80 e adesso... sono tornati di moda dopo tantissimo esatto tempo. Sì, sì. Perché avevano finito con moda. I vampiri, non sapevano più che cazzo fare, beh, tiriamo dentro, esatto. I zomba, vaffanculo. Ma però lo zomba è meno, come te posso dire, teenagerizzante, cioè nel senso, sì, oddio, ci hanno provato, ci hanno provato purtroppo. Pure con i zombie, dici? Sì, ci hanno provato, e anche in maniera molto kitsch e molto grottesca, tra virgolette, però diciamo che a mio avviso è stato un flop allucinante, anche perché lo zombie ha, diciamo, è una sorta di critica sociale, tra virgolette, e sinceramente si sposava poco per fare una sorta di teen movie con questa lieve venatura horror, che poi horror... Ma cioè, l'autrice non è mica la stessa del libro? È quella... Quella di Twilight? Esattamente. Okay. Ma che davvero mi state raccontando? Sì, sì. Esatto. Purtroppo direi, perché nel senso, in quel caso lì non c'è un senso logico a come si vede. Comunque una storia d'amore ideata su uno zombie, però bene o male, cioè, non c'è né capo né coda, che comunque si parla sempre del morto. Ma ci voglio crede? Sì, purtroppo. Ma tirategli le pietre a sta tizia. Ma infatti il film, diciamo, che è stato un cartone accettato, tra virgolette, dai teenager, dalle bambine di 14 anni ai 16, però in realtà è un film come direi io, perlomeno è una monnezza. È brutto. E invece con i videogiochi, ma in particolare sì, con retro gaming, mi pare che tu invece fai, c'hai delle collaborazioni con i ragazzi di Ocero.com, giusto? Esatto, esatto. Ovviamente nell'ambito dei videogiochi, vabbè, che comunque è il mio hobby e passione da sempre. Sì, attualmente diciamo collaboro con lo staff di Ocero.com e ovviamente anche con diversi ex redattori di varie testate giornalistiche del ramo, quindi parliamo di riviste come Zap, Games Machine, quindi un po' più storiche, e abbiamo, insieme abbiamo fatto un sito, blog, virgolette, che parla proprio di tutto ciò che riguarda l'ambiente videoludico del passato, sia tecnologico, quindi parlando di hardware che di software, e si chiama The Retro Games Machine proprio, e lì noi ci spizzeriamo attraverso nozioni, news, riproponendo anche retrospettive inerente a tutto il mondo videoludico, quindi parlando da dall'inizio, quindi parliamo sempre che hanno spaccato tra gli anni 70 fino a, tra virgolette, la fine degli anni 90, quindi dagli 8 bit ai 32 bit massimo, però prevalentemente parliamo di macchine 8 bit, quindi mondo Atari, mondo Commodore, e insomma tutti gli home computer che caratterizzano il periodo. Ok, purtroppo noi dobbiamo andare, ovviamente, no purtroppo, dobbiamo andare avanti con il programma. Chiaramente adesso faremo useremo un meccanismo transtemporale a curvatura 7, perché praticamente qual è il problema? Il problema è che Biggio ancora non c'è, e quindi l'intro che Biggio legge di solito la sentirete uguale, anche se Biggio non c'è, e ve la facciamo sentire adesso. Se il cinema è la settima arte, allora, forse, possiamo anche azzardarci a dire che i videogiochi ne sono l'ottava. Videogiochi e cinema sono strettamente legati, se non altro per il fatto che sono due arti nate nello stesso secolo, più o meno, e che, fondamentalmente, basano la maggior parte della loro comunicazione sull'ambito audiovisivo. I videogiochi sono una disciplina giovane, talmente giovane che non ha ancora sviluppato una sua maturità, ma continua ad attingere alle altre arti e alle altre forme di linguaggio. Il cinema sopra le altre. Quante volte siamo messi a guardare un videogioco e a pensare «sembra un film»? Quasi mai invece siamo messi a dire «sembra la realtà». Per certi versi, il linguaggio del videogioco non si è ancora fatto e dunque si basa su altri stili e stilemi, su altre ipotesi, su altri assiomi. Il fatto che il videogioco derivi parte dalla sua comunicazione non interattiva sul cinema fa sì che purtroppo, spesso e volentieri, il videogioco attinga più che alle strutture, agli stereotipi del cinema stesso. Questo ci fa dire, spesso, è scritto bene per essere un videogioco e quasi mai è scritto bene. Un po' come se il soffitto, il cielo del videogioco, fosse il pavimento del cinema. E il fatto che il videogioco sia un mezzo intrinsecamente interattivo fa sì che l'autore, lo sceneggiatore, il creatore del videogioco, sia costretto a lasciare suo malgrado una certa dose di libero arbitrio nei confronti del protagonista assoluto del videogioco, il giocatore. Questo significa che la sua storia non può essere raccontata al 100% dall'autore, ma viene svolta, dipanata, vissuta e infine scritta da chi la sta giocando. Se sei un autore di un romanzo, di una pièce teatrale o di un film, sei il padrone assoluto di tutti i personaggi della vicenda e di come questa arriva al termine. Soprattutto sei il padrone assoluto del percorso del protagonista, sei dove inizia e sai come e dove va a finire. Nei videogiochi si possono tracciare delle linee, costringere il giocatore a seguire dei percorsi prestabiliti, e non è soltanto una metafora. Fatto sta, però, che l'autore non avrà mai la libertà completa di raccontare la storia in senso assoluto. Per questo motivo, da tempo immemore, gli autori di videogiochi sono sentiti costretti, imbrigliati, incatenati ad un linguaggio che non lasciasse loro la libertà totale di essere i padroni assoluti della storia che stavano raccontando. E alcuni di essi, qualche volta, hanno tentato di oltrepassare questi confini, dedicandosi a espressioni meno interattive ma più autoriali. Nell'arte non vige la democrazia, ma la monarchia assoluta, e il regista di un film, l'autore di un romanzo, sono tiranni paragonabili a Dio, creatore dell'universo. Anzi no, essi stessi, l'intero universo. Ed è per questo motivo che oggi parliamo del rapporto tra cinema e videogiochi. Anzi no, più precisamente del rapporto tra autori di videogiochi e cinema, di come i due linguaggi si assomiglino e di quanto invece, comunque, la disciplina ludica digitale debba ancora crescere per affermarsi con un proprio linguaggio, che esuli da quello audiovisivo classico fino a divenire, ce lo si augura un giorno, l'arte del terzo millennio. Ovviamente, dopo che Biggio ci ha fatto questa bellissima introduzione scritta da Alex, che insomma lunghissima come al solito, piena di sentimenti e roba, cioè, non possiamo dare i voti perché noi non l'abbiamo sentita, l'avete sentita soltanto voi. Quindi noi andiamo avanti sperando che Biggio prima o poi entri in trasmissione. Alex, a questo punto diamo il via all'inizio, alla parte centrale proprio della trasmissione. Ok, sì, va bene. Ho pensato a questa puntata da anni, ancora prima che ci fosse dietrologia videoludica, perché mi sono accorto fondamentalmente che i videogiochi, come l'ha detto Biggio poc'anzi, spazio-temporalmente parlando, i videogiochi sono un'arte che è nata da pochissimo, se si può chiamare arte, e di conseguenza, dato che ce l'hanno anche nel nome video, hanno attinto nel loro linguaggio tantissimo dal linguaggio dell'audiovisivo precedente, nella fattispecie del cinema, dove per cinema si può intendere qualsiasi forma di intrattenimento audiovisivo, che può essere anche il telefilm, o insomma altre opere di fiction, che ne so, il videoclip, il corto, eccetera eccetera eccetera eccetera. Allora, come mi sono detto, i videogiochi per certi versi scimmiottano il cinema. Dico scimmiottano perché fondamentalmente non hanno ancora un linguaggio tutto loro, o se ce l'hanno è ancora una cosa immatura e acerba, e mi sono chiesto quale può essere il rapporto, se c'è un rapporto simbiotico tra cinema e videogiochi. Si potrebbe parlare tantissimo di cinema e videogiochi, tipo i videogiochi tratti dai film, i film tratti dai videogiochi, come il linguaggio dei videogiochi ha influenzato il cinema. Io penso, pensiamo per esempio a Matrix deve tantissimo, le sue sequenze di combattimento devono tantissimo ai videogiochi tipo Street Fighter. Per cui sì, c'è molta commistione, ma in realtà quello di cui voglio parlare oggi, che è una cosa un po' più limitata, è il rapporto tra chi sviluppa videogiochi e il linguaggio che utilizza. E l'ho fatto pensando a quattro domande che mi piacerebbe porre a voi esperti del settore e dell'altro settore, però ripeto, per certi versi, dato che io mi posiziono sempre nella categoria di quelli che gioca poco ma che fa tanto cinema tra virgolette, nel senso che io faccio video per campare, non per campare, non ancora almeno, faccio video per campare, per cui diciamo che il mio linguaggio principale è quello dell'audiovisivo, da autore di audiovisivo io mi metto a guardare videogiochi e noto le similitudini e noto anche le differenze e noto anche quando il videogioco vorrebbe arrivarci ma non ci arriva, e soprattutto quando l'autore del videogioco vorrebbe arrivarci e non ci arriva, e tante volte o trovo una scappatoia o trovo un'altra strada, o proprio a un certo punto si arrende e decide di passare dall'altra parte. Per cui per certi versi oggi più che autore mi piace sentirmi come una sorta di ospite che potrebbe per la prima volta dare un'opinione un po' più ragionata, un po' come quella anche di Alessio. Per cui direi che secondo me le domande le fai tu e eventualmente poi te le spiego. Cioè io? Sì, certo. Allora, tu la prima domanda che fai qui è: dal cinema al videogioco, come l'arte ludica digitale ha attinto a piene mani dal linguaggio del cinema? Esempi e icone: Metal Gear Solid e Heavy Rain. Oddio, ce ne sarebbero tanti. No, ce ne sono 200.000, quelli sono quelli che mi sembrano più iconici dal punto di vista della, diciamo, sono quelli che portano la questione all'eccesso. Sì, ok, sì. Nel senso, ci sta anche. Ok, Alessio, inizia te, va, poi dopo sviluppiamo la discussione. Ma io, allora, credo che appunto, perché poi ho citato proprio Metal Gear Solid, credo che con la capacità di alcuni produttori di poter creare giochi che si affacciano verso il mondo del cinema, ma nasce evidentemente anche dallo sviluppo tecnologico, e sono secondo me quasi di pari passo, nel senso, dove lo sviluppo tecnologico come si evolve, a quel punto dà possibilità a chi ha un'ottica più vasta, quindi che vede al di fuori del gioco fine a se stesso, lo vede anche come forma appunto visiva, di poter creare qualcosa di più. Ecco, parlando appunto di Metal Gear Solid, quindi parliamo di Hideo Kojima, che infatti diciamo che la critica stessa lo definisce, lo considera il regista di videogiochi più che il produttore di videogiochi, perché grazie alla sua serie ha mostrato come è possibile ricreare una storia rappresentata a livello visivo come se fosse un vero e proprio film, e poterlo deframmentare in storie sotto storie creare un percorso pari a dei sequel che possiamo vedere infatti anche in vari film famosi che vediamo al cinema. E la cosa interessante è vedere proprio come ha ideato l'idea della cutscene, quindi proprio delle scene di intermezzo tra una sessione di gioco all'altra, come se fossero proprio sessioni di un film vero e proprio, dove però anziché vedere attori in carne e ossa, appunto notiamo come adesso CGI crea personaggi quasi fedeli alla realtà, tra virgolette, con movenze e soprattutto un'impronta registica fedele ai vari cult cinematografici. E secondo me, ecco, tutto si basa su un pari passo: più si evolve la tecnologia videoludica, più chi produce e chi insomma crea soggetti tenta di emulare, che insomma è una sorta di emulazione del mondo cinematografico. E quindi ecco l'accostamento, quindi più si va avanti e più vedremo cose più analoghe al mondo del cinema, anche perché giustamente al cinema abbiamo più spazi di concezione, secondo me, a livello anche di movimento in generale, insomma ci sono meno castrazioni tra virgolette, anche se è vero che adesso virtualmente possiamo accingere a qualsiasi cosa, ma comunque abbiamo visto anche che le varie tecnologie come appunto il motion capture permette appunto di utilizzare personaggi reali per far sì che anche i filmati in CGI siano fedeli nei movimenti come nella realtà. E quindi ecco, secondo me è proprio una fusione delle due cose, cioè il videogioco si avvicina più al cinema nel momento che la tecnologia si evolve, è una sorta di evoluzione parallela che porta, ecco, a far incrociare le cose. Sì, allora faccio una piccola riflessione più che altro anche sull'introduzione che ha fatto Alex sul fatto dei paralleli, che poi è una cosa di cui abbiamo discusso probabilmente anche nelle primissime puntate di Idrologia Videoludica, Alex, non so se tu ti ricordi, anche con Marrone, perché in realtà il parallelismo tra cinema e videogioco è un parallelismo quasi naturale, perché poi alla fine al cinema, anzi al videogioco, tocca un certo tipo di critica, di analisi o di modo di considerare come quella forma di espressione che era la stessa che praticamente veniva riservata al cinema nei primissimi anni, no? Nel senso che comunque fino a che il cinema non si è sviluppato come arte, in realtà era vista come una sorta di nuovo media che in realtà scimmiottava anch'esso, voglio dire, da tutte le altre forme di interpretazione e di espressione, che possono essere la fotografia, come può essere il teatro e via dicendo. Per quanto riguarda i videogiochi, in realtà i videogiochi potrebbero aver già più o meno sviluppato in determinati ambiti una certa propria personalità anche dal punto di vista del linguaggio, quando parliamo dei videogioco puro, dei puro gameplay. Però il problema è che il videogioco è un media talmente versatile, è un medium forse se per caso di dire, talmente versatile che in realtà è tutto, nell'essere tutto praticamente in questo enorme contenitore c'è il gioco narrativo come c'è il gioco di gameplay puro fine a se stesso. Nel gioco narrativo che si è sviluppato sin dai primi anni 70 già con le avventure testuali, in realtà con l'evoluzione della tecnologia, così come diceva appunto adesso Alessio, in realtà è un passaggio quasi naturale, no? Questa rappresentazione, questa verosimiglianza all'unica forma di narrativa visiva che conosciamo, che è, o perlomeno la più grande, la più importante, che è proprio quella del cinema. Se prendiamo ad esempio poi queste due icone che tu hai rappresentato, Alex, secondo me qui il problema è quando un game designer nasce come game designer o quando un game designer nasce come regista fallito, nel senso che laddove non sei riuscito, oppure nel videogioco hai trovato un canale per fare quello che magari nella vita ti sarebbe piaciuto fare, non pensi, Alex? Lo penso abbastanza, e questo diciamo che è più il tema della prossima domanda. Devo dire sì, che allora sì, in effetti sì. Io penso a Metal Gear Solid, che è stato il primo che mi ha colpito dal punto di vista veramente registico, devo dire la verità. Io parlo della PlayStation 1. Lo giocavamo io e mio fratello con la PlayStation 1 collegata al videoproiettore. E mi ricordo la sequenza introduttiva dove c'era praticamente lui che si avvicinava con la tuta da sub, se non erro. Sì. E, e c'erano i titoli di testa, e la cosa interessante è che ogni volta che entrava un personaggio nuovo veniva fuori il nome del doppiatore, un po' come se fosse il titolo dell'attore. Sì, e questa, esatto, è stata una scelta molto molto molto delicata, devo dire la verità, nella tamarraggine comunque, nella sua tamarraggine, perché alla fine comunque Metal Gear Solid sarebbe un gran film di serie B, secondo me. Un film di serie B come potrebbe essere, che ne so, G.I. Joe, per farvi capire, cioè un film di serie B che costa 150 milioni di dollari, però per certi versi una cosa del genere, cioè certe tematiche sono state esplorate dal cinema negli anni 70, secondo me. Tematiche, non sto dicendo parlando dell'oggetto vero e proprio, però certe tematiche di impianto sociale della guerra fredda, della sperimentazione, questo tipo di cose. Detto questo, ripeto, quello è stato il primo videogioco in cui ho detto cazzo, sembra un film, e allora devo dire che mi colpì tantissimo. Parallelamente agli antitesi, arrivo a Heavy Rain, che è veramente tecnicamente molto più avanzato e tutto quello che volete, ma non è di quello che voglio parlare. Però vi ragioni. Tre generazioni di differenza. Esatto. Però allo stesso tempo mi è sembrato come ancora una volta più si arriva tecnologicamente a livelli tra virgolette eccelsi, e non lo sono, perché ho sempre pensato che comunque ce n'ha da fare la tecnologia del real time prima di arrivare a una cosa sensata. Questa è la mia opinione personalissima, però più questa cosa mi sembra una scimmiottatura della realtà, un po' come se i personaggi fossero veramente tagliati con l'accetta, non ci fosse uno spessore più ricco. Secondo me gli sceneggiatori e gli autori, che potrebbero essere game designer o registi, come volete fare, come volete dirlo voi, hanno ancora diversi anni di esperienza da maturare, di esperienza, per far sì che questo tipo di approccio possa sembrare più realistico e meno semplicistico. Posso capire che comunque i limiti tecnologici siano comunque dei limiti. Io continuo a dire, e magari ne parleremo più avanti, che se devi far recitare bene un pupazzo, perché alla fine digitali sì, con motion capture sì, con performance capture sì, però sono comunque sempre pupazzi, dai lavorare, devi sbattere tantissimo, molto di più di far recitare un attore vero e proprio. Magari ne parliamo più avanti di questa cosa qua. Sì, anche perché l'avevo previsto. Esatto. Però a questo punto, nonostante l'abbia fatta io la domanda, non la capisco neanche. No, a parte tutto, ripeto, io credo che questo, quella di oggi, sia l'inizio di qualcosa, e secondo me si svilupperà in un modo tale che sarà molto diverso da quello che ci aspettiamo. Secondo me non è nell'avanzamento tecnologico che c'è un avanzamento di linguaggio. Sì, di solito le cose vanno pari passo, ma nel caso dei videogiochi secondo me ci sarà un approccio differente. Sarebbe interessante che ne so per esempio arrivare a un punto in cui, faccio la mia idea, la sintesi vocale è arrivata a un livello tale che non è difficile da distinguere da quella umana. A questo punto non devi più far recitare un attore, ma schiaffi dentro decinaia, centinaia, migliaia di righe di testo che possono essere generate più o meno in modo, come si dice, coerente con la storia che il giocatore si sta raccontando giocando. E lì sarebbe piuttosto interessante, perché a questo punto non c'è più una interattività del tipo hai tre scelte, a seconda delle tre scelte hai la risposta. A questo punto le scelte diventano quasi infinite e a seconda di una serie di parametri, di valori, vengono generate delle risposte attoriali da parte degli attori digitali, dei pupazzi digitali con cui si interagisce. Quello potrebbe essere un'evoluzione del linguaggio, per esempio. Non tanto il fatto di arrivare a un livello di verosimiglianza assoluta. Poi ripeto, quando parleremo di attori digitali vi racconterò un aneddoto che ha a che vedere con Xbox One, con un gioco su cui ho interagito veramente per un femtosecondo, ma ho visto come stanno facendo alcune cose, e allora vi faccio capire che appunto la strada è ancora lunga per questo tipo di cosa. A parte i videogiochi che sono prettamente narrativi, ci sono altri videogiochi che sono prettamente ludici, e in quelli non c'è più bisogno di scimmiottare, cioè il linguaggio del videogioco è il videogioco stesso, per cui non c'è questo problema. Secondo me, man mano che si proseguirà, almeno questo è il mio augurio, è che queste due cose si fonderanno insieme fino a creare qualcosa di più morbido, più fluido, cioè dove non ci sarà più la necessità di interrompere il gioco mostrando qualcos'altro o qualcosa di simile. Ma il problema, sai qual è? Che in realtà è sempre, bisogna vedere. Allora, il problema è che secondo me il termine videogioco, ribadisco un po' quello che vi ho detto prima, è un po' troppo generico. Nell'ambito dei videogiochi e nell'ambito dei videogiochi narrativi sicuramente è come dici tu. Per il resto, magari per tutta quella tipologia di videogiochi più tradizionali o i videogiochi indie che prendono magari dalla concezione dei videogiochi originali, tutto questo in realtà non gliene può fregare di meno, cioè nel senso concettualmente, ma proprio perché è giusto mettere una barriera, nel senso noi stiamo parlando, non una barriera, comunque uno specifico indicativo su quello che è ovviamente una tipologia di videogiochi. Noi stiamo parlando di questo tipo di videogiochi, che poi tra l'altro tu fai menzione, qui vado a Alessio che magari lo sa, lo so se l'è spappato tutto, dell'ultimo Metal Gear che è uscito, quando era, l'altro anno, due anni fa. Aspetta, quale? Parli del 4, no? Parlo del 4, esatto. Ah, sì, tre anni. No, aspetta, forse anche più 2008. Vabbè, insomma, comunque hai capito, sì. No? Quello è che stiamo parlando di dove veramente il gioco è ridotto. Cioè, mentre sì. Che Heavy Rain è in effetti nell'intenzione un film interattivo, esatto, Metal Gear Solid in realtà è un gioco d'azione farcito da cutscene, laddove esatto. Però il concetto è stato portato all'estremo, nel senso che il cutscene è farcito da qualche sprazzo di gameplay. Infatti se sui videogiochi era ridotto così e no in poco più di 4 ore e mezza, mentre invece tutto quanto i cutscene arrivavi anche sulle 8-9 ore, quindi soprattutto le scene erano decisamente superiori al quantitativo del gioco e di gameplay in generale. Sì, in effetti sì, era un condimento tra virgolette, il gioco era un condimento delle scene, diciamo che lui, il Kojima, con quel gioco secondo me ha voluto compiere un po' questa transizione, oppure c'erano talmente tante cose da chiudere anche dal punto di vista narrativo che era più importante farlo così il gioco, che poi il gioco è spettacolare, nel senso visivamente, però è chiaro che ha ricevuto tanta critica, no? Perché nel senso, ecco, per chi concepisce il discorso del videogioco in un senso più tradizionale, cioè nel senso ha speso magari del denaro e dice oh, però che cazzo, cioè. Ho speso 60 euro per vedermi un film, insomma, virgolette, esatto. Dice. Esatto, insomma, vabbè, noi comunque, al di là degli eccessi, comunque capisco il perché Alex abbia preso ad esempio questi due videogiochi. Andiamo al secondo punto, dal videogioco al cinema, quando i cosiddetti registi di videogiochi, ed è appunto quello che un po' facevamo riferimento prima, non riescono più a contenersi e si traghettano dall'altra parte, quindi cioè nel senso vanno a finire dal videogioco al cinema. Anche in questo caso Alex fa due esempi, Wing Commander e i corti di Assassin's Creed, anche se forse proprio che vanno al cinema, a parte Wing Commander, credo ci sia stato anche un altro esempio che è stato abbastanza fallimentare, ma adesso su due piedi non mi viene in mente. No, ma diversi. Alessio, vai. Beh, dei fallimenti, cioè, anche tanti, sono stati tanti fallimenti cinematografici, ovviamente... portati dai videogiochi, ecco, basta vedere la filmografia di Uwe Boll, perché lui fa soltanto quello. No, scusa, però in realtà quello che intendevo dire io sì. Era che alcuni autori di videogiochi, a un certo punto, e io mi riferisco fondamentalmente all'autore di Wing Commander, che è Chris Roberts, giusto? Sì. Che lui, quando ha fatto l'ultimo Wing Commander, che ha tirato dentro attori in carne e ossa a recitare per nelle cutscene, tra cui Mark Hamill, giusto? Sì. A un certo punto io ho letto un'intervista, l'ho letta su Cap ai tempi d'oro, e dice: cazzo, vorrei fare di più, ma non riesco a fare perché non ho tutti gli strumenti tecnici per farlo. No, infatti è fallito. Esatto, no, non ha riuscito a farlo nel videogioco. A questo punto ha detto: vaffanculo, facciamo un film. Si è scontrato col fatto che i film, cioè che i videogiochi allora costavano molto meno da fare, per cui ha fatto un film Wing Commander spendendo 9 milioni di dollari, che allora per un videogioco sarebbero stati l'infinito e mezzo, per un film erano una cacca di cane rinsecchita. E poi ha fatto quel film lì in cui ha dovuto risparmiare su qualsiasi cosa, dove i killerati, giusto, si chiamavano così, sì, sono praticamente della gente che si vede da lontano con dei led al posto degli occhi e con delle scene in computer grafica che sì, un po' meglio di Babylon 5 per dirti. Però ripeto, e lì si vedeva la spinta fondamentalmente autoriale, per quanto si può definire autoriale un film come Wing Commander o anche una saga come Wing Commander, che diceva: io vorrei fare sta roba ma non riesco a ficcarla dentro nel videogioco per vari motivi, perché devo avere perché non posso fare i movimenti di camera, se no le panoramiche mi squadrettano, perché non ci posso mettere qui, perché il green screen viene male, bla bla bla bla bla, vaffanculo, faccio un film. Cioè era questo il tono, come dire, cioè nel senso, allora più che adesso c'erano talmente tanti vincoli nel videogioco, vincoli che adesso, se appunto prendiamo le varie Kojimate o le varie David Cageate, ci sono molto, molto meno, però allora c'erano talmente questi vincoli che ho detto ma vaffanculo, faccio questa cosa, e non solo passo dall'altra parte perché posso finalmente esprimere esteticamente qualcosa, ma finalmente posso iniziare e finire la storia come voglio io, cioè non lascio più libero arbitrio allo spettatore. Questa è la cosa ancora più forte, perché nel videogioco l'autore ti dà soltanto un po', come dire, i contorni, gli assiomi, poi è il giocatore che ci gioca, che fa le cose. Poi ci sono ovviamente dei videogiochi che sono fondamentalmente dei grossi corridoi in cui fai tutto quello che devi fare, devi guardare tutto quello che devi guardare, e cioè non c'è solo un modo di arrivare alla fine. Vabbè, come la maggior parte. Come la maggior parte. Però, sì, però non è la stessa cosa, perché io penso a un videogioco, vabbè, è molto particolare, come Half-Life, che vabbè. Come dire, hai citato Bruscolini. Half-Life è un gioco, è un film in cui però tu potevi muovere la testa e guardare dove volevi. Le cutscene erano comunque interpretate. Se uno ti parlava, potevi guardargli le spalle e guardare cosa c'era dietro. Al cinema, no, nel senso, se uno guarda uno spettatore e la telecamera lo inquadra, e così enfatizza come si dice, le emozioni che deve tirar fuori. E questa è la cosa. Cioè, diciamo che c'è comunque minima. Adesso è molto più facile fare dei videogiochi che sembrano dei film. Allora era talmente difficile c'era molto più spazio lasciato al giocatore, per cui il regista dei videogiochi diceva: basta, non voglio più lasciare la libertà al giocatore di farsi il suo film. Cazzo, questa è la mia storia, deve iniziare come dico io, deve finire come dico io. Ci deve essere il mio percorso evolutivo. E praticamente diciamo che si andava ad eliminare la parte interattiva per mantenere un controllo autoriale, ed era questa la cosa che volevo sottolineare. Ripeto, io immagino più allora che adesso, quando c'erano delle grosse limitazioni dal punto di vista tecnologico, che un autore di videogiochi dice: io voglio metterci dentro, cioè magari non ci stava su CD tutto sto video, per esempio hai soltanto 20 minuti di video, do cazzo cosa posso fare, io vorrei scrivere la storia dove lei racconta Fadi, voglio metterci 9 ore di cutscene come fa adesso Kojima. Adesso c'è lo spazio, allora non c'era, sì, infatti, perché allora non potevi neanche farlo col motore di gioco, perché non esisteva il motore 3D, non potevi farlo, devi comunque farlo recitare, e allora c'era tutto questa limitazione. E immagino che appunto l'autore a un certo punto dicesse: basta, vaffanculo l'interattività, torniamo indietro, però dove posso esprimere tutti i miei colori, tutte le mie, la mia palette di emozioni. Ma io allora faccio parlare Alessio adesso, perché in realtà secondo me questo, paradossalmente, questo punto si riaggancia un po' anche a un'altra cosa che hai già detto prima e che avremo poi affrontato successivamente, perché c'è tutta una serie di motivazioni e di scelte fatte nell'ambito dei giochi narrativi durante la loro storia che in realtà, voglio dire, comunque non possono non essere affrontati sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista di scelta, da un punto di vista anche economico. Il problema è che comunque ritorniamo sempre là, cioè nel senso che quando gente come Chris Roberts, o vediamo anche i casi di Under a Killing Moon, Tex Murphy, o comunque tantissimi altri videogiochi che comunque nell'era del multimediale hanno trovato la bellezza del full motion video e quindi la possibilità di utilizzare attori, roba del genere, lì secondo me veramente molti, e qui un po' quello che dicevi Alex magari anche nella domanda, no? Quando sono riusciti a contenersi o a contenere il proprio entusiasmo rispetto a questa cross-medialità, no? A questo fatto di essere progettisti di un certo tipo di medium utilizzando un altro tipo di sorgente, quanto poi questo ti faccia venire anche la scimmia, perché dice: sì, ok, io sono un autore di videogiochi, però sono anche un autore, ho scritto una sceneggiatura, quindi ho anche girato dei filmati, perché quindi poi alla fine ti viene la scimmia della cinematografia. Il problema è che poi dopo, come abbiamo detto, insomma, non soltanto molti risultati sono stati devastanti, ma sono stati devastanti anche dal punto di vista produttivo per i videogiochi stessi. perché poi è questo che magari va anche tenuto un po' in considerazione, perché Wing Commander non è soltanto il fallimento di un film, ma il fallimento di una delle più grandi e importanti software house dell'epoca, perché comunque quando è caduta alla Origin, insomma, è caduto un pezzo anche di grande evoluzione, perché ogni volta che usciva un gioco della Origin, io mi ricordo che comunque dovevi cambiare computer. No? Esattamente. Ti faccio un'interruzione perché è arrivato Biggio. Allora, ritorniamo a questo secondo punto. Anzi, no, prima allora facciamo così. Allora, Biggio, velocemente. Sì. Dal cinema ai videogiochi, come l'arte ludica digitale ha attinto a piene mani dal linguaggio del cinema. Esempi ed icone: Metal Gear Solid e Heavy Rain. Veloce, perché questo noi già l'abbiamo fatto. Quindi. Cosa è? Sì, ma. Esprime una considerazione, quello che te senti di. Ma penso che forse più nell'ultimo periodo c'è stata una maggiore cinematizzazione, diciamo, del videogioco. Sì, è vero, in effetti l'esempio più calzante forse nei tempi recenti è quello di Metal Gear Solid con il Kojima, che voleva fare il regista e invece si è messo a fare i videogiochi e ha cercato di mettere tutti quei tagli cinematografici, la fotografia, diciamo, tipica del cinema nei videogiochi. E poi appunto da lì mi sembra che ci sia stato un maggiore interesse grazie ai mezzi, ecco, soprattutto perché chiaramente magari anche certi videogiochi più vecchi, diciamo, cercavano di scimmiottare qualche cosa del cinema, ma per limiti hardware non era possibile farlo. Ma negli ultimi tempi, tornando al discorso di prima, ci sono riusciti, ecco. Secondo me, quindi, appunto, Metal Gear Solid è un grande esempio, ma anche Mirror's Edge, in qualche maniera, puntando tutto su una serie di cose, di aspetti estetici, un po' cerca di ricordare il cinema, ma anche un Dead Space, con la colonna sonora che ti accompagna in modo da aumentare la tensione tipica, ad esempio, più o meno horror. Più o meno i giochi moderni quasi tutti attingono, no, dal linguaggio cinematografico, sì. No? Però dico, sì, essenzialmente. Questo, quello che voleva sapere Alex, così da nostra opinione, è quanto questo poi rende il media ancora non indipendente, no? da un tipo di linguaggio che è quello del cinema rispetto a un linguaggio che invece potrebbe essere proprio. Allora io ho fatto l'esempio del fatto che una cosa, cioè che il videogioco di per sé è comunque un contenitore vastissimo, dove dentro ci sono i giochi indie fatti di puro gameplay e che col linguaggio del cinema non c'hanno niente a che fare, ci sono i giochi narrativi che invece prendono a piene mani perché è comunque il legame più logico dal punto di vista del racconto visivo, quello col cinema, no? Sì, beh, quello ormai mi sembra, sì, giustamente un legame quasi imprescindibile in certi casi, almeno ultimamente, appunto. Soprattutto nel videogioco dove muore la bambina. Beh, quello è un esempio di gioco molto recente dove muore una bambina in maniera cinematografica alla fine. Stiamo parlando di The Walking Dead, possiamo dirlo, tanto non c'è problema. Perché muore la bambina. A spoilerare il finale, esatto. Sì. Va bene. E non è il solo dove muore una bambina di recente, comunque, come il videogioco, dove fanno morire una bambina in maniera abbastanza pesante e devastante nello psicologico. Attenzione, perché noi quando diciamo muore la bambina lo prendiamo, cioè, come scherzo, non è un reale spoiler. No, sì, stavolta questo poi dico io è un reale spoiler che è di molto impatto emotivo, che secondo me dimostra anche il fatto di come si stanno spingendo sempre oltre, no? Come si sta arrivando verso la comunicazione totale, cioè mostrando anche ciò che magari una certa maturità anche, tu esattamente dici. Molto più esplicito e soprattutto si sta arrivando proprio a mandare dei messaggi belli, diretti, forti, cose che forse prima non veniva mostrato. Vabbè, allora poi fuori onda ce lo dici che gioco è, perché mo certo. È l'ultimo Bioshock, possiamo dirlo, no. Muore la bambina anche lì. Anche lì, però. Dai, vai. Non è che sto scherzando, non ce ne sono bambine in Bioshock. Assassin's Creed muore la bambina, chiaramente. La bambina. No, in Assassin's Creed muore la bambina. È recente, è un gioco recente di parecchi di impatto molto. Ma tu dici ecco. The Last of Us? Bravissimo. E mica muore la bambina alla fine? Come no, all'inizio. Ah, beh, vabbè, sì, sì, ok. Beh, okay, però okay. È, qui è un punto, il okay. Punto sì, sì, è beh, particolare, sì, è vero, hai ragione. Però sparata così su pum, beh, sì, sì, hai ragione. Beh, quello non è neanche uno spoiler in realtà. Cioè, no, no, anche perché non è la protagonista, diciamo, è più che altro la protagonista psicologica da parte del protagonista principale, quindi non è però sì, beh, ma il rapporto che durante tutto il resto della storia è basato fortemente condizionato da quello, ma infatti esattamente sarebbe bello parlarne una volta della Stovase, perché sembrava una cosa un po' messa così a cazzarella, sì, una storia matura, invece secondo me personalmente, come vedo io, lo ritengo attualmente il miglior titolo di questa generazione, esatto, sia per quanto riguarda esatto. Il discorso tecnico che quello cinematografico. Mi dispiace, ma sono d'accordo con te. Perché mi no, perché farà incazzare molta gente, cioè nel senso bloccato. A me non sta bene. A me non mi sta bene, a me piacciono i giochi indie. No, io lo vedo così, è qualcosa che dici veramente completo. Proprio, ecco, è un titolo a 360 gradi. Emoziona, diciamo, è di impatto emotivo in tutto e per tutto, offre tanto gameplay. E come abbiamo detto prima, appunto, è la fusione perfetta tra cinema e videogioco. Cioè, una nuova veduta, però molto più giocabile rispetto a titoli come Metal Gear, appunto, ecco. Che poi viene il dubbio, scusa Alex, ora ritorniamo nel tema, però sta cosa mi ha fatto un po' così. In realtà ti viene da pensare il fatto di quanto i tre Uncharted siano stati una sorta di aggiustamento del tiro, più che... Perché questi hanno studiato, inventato questa tecnica anche dal punto di vista della scrittura, anche dal punto di vista della gestione gameplay e scene d'azione e via dicendo, quindi questo connubio molto spettacolare, roba del genere, per poi arrivare a un titolo che con Uncharted fondamentalmente non c'entra niente, no? Uncharted è più il blockbuster all'Indiana Jones, no? Esattamente. Poi, esatto, infatti Uncharted rimane più, oltre che è molto più a corridoio, è comunque un titolo che si ispira veramente appunto alle vedute classiche dell'action stile Indiana Jones, come deve essere anche un Tomb Raider, ovviamente più completo, però è sempre più limitato rispetto a quello che si è visto con The Last of Us. Eh sì, sarebbe bello fare un bel puntatone, magari lo facciamo Biggio a settembre, richiamiamo Alessio che mi ha dato un buono spunto. Comunque il secondo punto, Biggio, era dal videogioco al cinema, quando i cosiddetti registi di videogiochi, detto fra virgolette chiaramente, non riescono più a contenersi e traghettano dall'altra parte, cioè nel senso quando portano il perché secondo te anche magari, cioè nel senso che cosa che spinge ovviamente o che ha spinto ovviamente questi cosiddetti registi di videogiochi a traghettare praticamente la loro opera da una parte all'altra. E Alex fa ovviamente gli esempi dei corti di Assassin's Creed, ma penso che la summa, voglio dire, di un certo tipo di discorso, soprattutto in un periodo d'oro per il full motion video nei videogiochi, è stato Wing Commander. Grande Wing Commander. Grande Wing Commander. Grande Wing Commander. No, beh, scherzi. No, davvero, era una figata Wing Commander, comunque. A parte di tutto. Vai tu e poi va Alessio, poi Alex gli facciamo magari concludere se qualche cosa è stata mal interpretata rispetto al punto. Ecco, no, io farei andare Alex perché non ho ben chiaro dove vuole arrivare lui, quindi facciamo intervenire Alex prima e poi mi unisco io. Ma Alex ha già dietro, parlato ovviamente. Quando tu eri ancora sul tram a pulire il tram anche. Tesori cari. Vabbè, di esprimere. Vai a cazzo, che te ne frega. Vabbè, Alessio, vai, che Alessio almeno bene o male già era introdotto nella questione. Beh, diciamo che ecco, secondo me il caso più... più significativo è proprio questo qua di Wing Commander, che secondo me lì si è visto proprio come la limitazione tecnologica nell'ambiente videoludico ha fatto sì che tutto venne trasposto in chiave cinematografica, però con il rischio appunto del flop, che in questo caso è come, a mio avviso, dal punto di vista, è quello di aver buttato una serie con il film, tra virgolette. Quindi cioè, purtroppo ecco, non è detto che chi fa il salto verso quello che crede sia la sua miglior veduta in realtà possa diventare o possa emergere ancora di più rispetto a come era nell'ambiente ludico. Cioè, ad esempio, ecco, se penso appunto a Wing Commander e penso al gioco, alla serie, dico, cavolo, è un titolo che ha fatto storia, perché comunque è stato appunto uno dei giochi spintissimi per l'epoca, che comunque, come hai detto, costringevano gli utenti anche a fare gli upgrade consistenti ai PC. passando al cinema, ovviamente sì, l'autore ha potuto creare quello che lui aveva in mente, però in quel caso lì, pum, finito, cioè nel senso tutto decade, insomma, non c'è più niente. E secondo me, ecco, Kojima ha fatto una dichiarazione che lui ha detto che dopo la realizzazione del nome Metal Gear vuole provare a farne un titolo cinematografico, come se non fosse già adesso, però e il rischio c'è, abbiamo visto il rischio c'è, perché comunque non è detto che se tutto andasse sul grande schermo allora vuol dire successo a tutti i costi, mentre invece forse il successo di Kojima è proprio perché lo applica nell'ambiente videoludico, esatto, che è ben diverso. E quindi insomma, a volte, per quanto ci sia questa vocazione registica e lo si nota, potrebbe essere un'arma a doppio taglio, e si è vista appunto con Wing Commander, perché è vero che anche i budget adesso sono molto molto elevati, e comunque ecco, basti vedere appunto film come Pacific Rim, che comunque ecco ti mostra come voler fare Evangelion, non posso fare Evangelion, faccio un'altra cosa che è analoga, che funziona, ok, perfetto, ma è sempre diciamo, un blockbuster, però ecco, la tecnologia te lo permette, ma non è detto che poi avrai quel seguito. Cioè, non è detto che la gente possa seguirti solo perché tu hai quel anche nome. Perché è il pubblico proprio che è diverso, eh? Esattamente, cioè, il pubblico del cinema è un pubblico generalista, il pubblico dei videogiochi è già un pubblico specifico. Ma si è visto infatti, ecco, anche se facciamo esempio di Paul Anderson con Resident Evil, che ha potuto trasformare completamente la serie del Biohazard, la completa trasformata, e giustamente ecco, la gente lo va a vedere perché ha dei riferimenti con la serie, con la serie videoludica, ma in realtà il film è quello che è qualcosa che va bene per la massa comune che dice voglio andare a vedere Resident Evil, che non c'entra niente col gioco, però che comunque mi intrattiene, ma in realtà io ho immaginato uno Shinji Mikami, che è l'autore del primo Resident Evil, fare un film, non è detto che abbia avuto lo stesso successo. E quindi su me sono sempre rischi, ripeto, è un'arma a doppio taglio, fa questo passaggio. Sì, Stefano e Alex. Sì, allora, avete detto già abbastanza voi tutto sommato, ma diciamo che no, sono abbastanza d'accordo su quello che avete detto. C'è da dire che appunto le due cose spesso non combaciano, come stavate facendo l'esempio di Resident Evil o aiuto, adesso non mi viene in mente. Ma poi Resident Evil ti vengo un attimo incontro dicendo sì. Resident Evil, se tu vedi poi i film quelli cinematografici, ovviamente riadattati comunque per il pubblico cinematografico, e poi sono delle opere di un certo tipo, anche se alcuni dicono che il primo è molto aderente, ricostruisce l'atmosfera tanto quanto Silent Hill, che essendo un film di merda però però c'ha tutta l'atmosfera del videogioco, cosa che già è difficile di per sé, no, come tipo di esatto discorso. E invece poi vedi i film di Resident Evil, quelli in computer grafica, quindi quelli progettati per il pubblico giapponese, mandati all'interno del pubblico internazionale, chiaramente sono film che vedono quelli che hanno giocato a Resident Evil, non esatto, come quelli di Final Fantasy, ad esempio. Come Final Fantasy, sì, film, come successo con Advent Children, esatto. Advent Children, ma ancora peggio. Come era quell'altro, il primo proprio, quello che hanno fatto? The Spirit Within. Era Advent Children, The Spirit Within, sì. The Spirit Within. Che poi tra l'altro con Final Fantasy non c'entra proprio un cazzo, cioè. No, vabbè, ma sai che con ogni Final Fantasy non c'entra un cazzo col precedente, con se stesso, è però vero. Effettivamente no, beh, finisci tu, poi te la faccio io la chiusa su sta roba. No vabbè, era questo quello che volevo dire, nel senso che comunque il film più o meno riadattato rischia di perdere atmosfera, rischia di perdere anche linguaggio per certi magari atmosfera, linguaggio e spirito. I film non riadattati sono film che alla fine guarda quel tipo di pubblico, cioè quelli che ci hanno già giocato, e quindi ovviamente devi vedere per chi stai facendo l'opera, no? E quando fai un'opera per un pubblico limitato è ovvio che il budget non può essere quello di un pubblico allargato, e quindi vedi che poi spesso e volentieri alcuni di questi prodotti sono finiti miseramente, anche come probabilmente anche giusto che sia, perché poi io penso che uno scrittore non si improvvisa regista. Oddio, no, scusa Abrams, scusa, non volevo, scusa. No, Abrams faceva le musiche, ancora peggio. Lui faceva musica e poi ha iniziato a scrivere. Abrams deve morire comunque. Poi King ha provato. Poverino. King ci ha provato. Sì, vabbè, sì, è vero. Il cinema ha fatto soltanto uno dei film, poi ha detto ok, stop. Anche ma quello era quello delle macchine che impazzivano. Sì, Brivido, esattamente. Mamma sì, mia, che brutta. Però grande colonna sonora. ACDC. No, voglio ricordare Stephen King per il tagliaerba, che non c'entra niente col libro. Ah, dell'amore. Sì, è vero. No, a parte mettermi tanta paura. No, ecco, quello che non piace a me è più che altro è quando le opere videoludiche diventano trovate commerciali filmiche per, non lo so, cioè roba alla stregua di un FIFA o di un PES, capito? Cioè quelle cose per il popolo bue che dice: oh, ho giocato a PlayStation, ho visto Goku in televisione, adesso vado a vedere il film. Cioè. Ma purtroppo questo penso sia anche un discorso proprio conseguenziale al fattore commerciale. Peccato, perché poi in realtà, cioè, voglio dire, come risorse, come IP, insomma, il mondo dei videogiochi ne hanno tirata fuori di roba che poteva potenzialmente essere interessante. Ma secondo me è anche molto, cioè, ma secondo me anche prima dell'attuale boom, diciamo, virgolette, tecnologico, con l'evoluzione che c'è stata, perché se già fai esempio dei titoli come, ecco, tutti la lineup della Lucasfilm, LucasArts, che comunque, ecco, se pensi a Monkey Island, se pensi ecco, allo stesso Zack McCracken, Manic Mansion, tutte le sceneggiature di quei titoli là erano perfettamente adattabili a qualsiasi chiave geografica per realizzare un telefilm o un film. Però ovviamente, vabbè, ma c'è un motivo però dietro, cioè vuol dire che comunque venivano da un laboratorio che lavorava all'interno di una casa di produzione cinematografica. Infatti la Lucasfilm Games era proprio così il nome, prima di entrare LucasArts, quindi era la stessa, adesso che sì, anche pace che... all'anima sua. Però sai che adesso mi metterò le ire di voi e di un sacco di gente che ci ascolta. Secondo me non è così. Secondo me penso a Monkey Island, penso a Indiana Jones and the Fate of Atlantis, penso a questi giochi capolavori che avevano una... Ci siete? Sì, sì. Scusate, sentivo il silenzio. Questi giochi capolavori che avevano una scrittura stratosferica. Se vuoi ti parliamo sopra. Sì, grazie, per piacere, se no mi sento solo. Solo, certo. Che avevano una scrittura stratosferica. E quindi stavamo dicendo che... Secondo me funzionavano davvero bene... Perché funzionavano bene come videogiochi. Secondo me, trasporli in un film avrebbero perso molto di ritmo, secondo me. Ci sarebbe rischio. Esatto. Ed è questa è una cosa che si è vista in vari casi. Ma all'epoca mi ricordo che si spinse molto con questa concezione di voler fare il film. Invece poi ho detto no, proviamo a farlo sotto forma ludica. Fu Spielberg, insieme a Lucasfilm, quando... insieme decisero di realizzare The Dig. Sì, ma perché The Dig sarebbe costato troppi soldi. Esatto. Cioè, però sarebbe stato una figata. Per fare il film, secondo me no, nel senso, secondo me come film sarebbe stato qualcosa che un po' si era già visto già ai tempi era del troppo Pianeta anni Proibito, 50, per dire. Era troppo anni 50. 50. Sì, cioè troppo anni 50 per quanto io sarei visto tutto e anche se sì. Però sarebbe stato il film di Spielberg, sarebbe stato una versione quando Spielberg ancora non c'aveva insomma, per dirti, pensa a quello che hanno fatto un pochettino dopo con com'è che si chiama il film dell'asteroide, non Armageddon, Deep Impact. Fondamentalmente Deep Impact. Molte delle atmosfere di The Dig sono atterrate su Deep Impact. Sì, è vero. Deep Impact è stato un film noioso, cioè soltanto una scena dove viene distrutto un ponte e dici che figata, poi il resto del film è politico. Ma neanche tanto politico, nel senso è molto Spielberg, cioè, anche se poi Spielberg non c'entra niente, anzi l'ha diretto Catherine Bigelow, giusto? Esatto. Che poi ha vinto l'Oscar per mille altre cose. Tranne che per quello. Per quello è un film veramente buonista, cioè tipo la figlia, io rinuncio ad andare a salvarmi perché così sta a abbracciare mio padre quando arriva l'onda gigante. Cioè, quelle sono classi. È melodramma. Sono cliché classici per far strappalacrime. Infatti, però alla fin fine ci ricordiamo tutti, nel bene e nel male, di Armageddon di Michael Bay piuttosto che di Deep Impact di Catherine Bigelow. Non è per i soldi, è perché quello, tamarrata per tamarrata, almeno facciamo una tamarrata che fa tanto rumore. Esatto. E dirvi, cioè, Armageddon è forse il film peggiore di Michael Bay, il film peggiore di Michael Bay che ho visto. Ma sì, io però mi manca l'ultimo che è uscito al cinema oggi, per non cui. So tutte queste analogie che ci possono stare con The Dig, ma The Dig soprattutto quando loro arrivano nel pianeta, c'è esatto. un'atmosfera, c'è una sonorità, c'è un, anche una musica, un sound che ricorda molto un certo tipo di anni, dei film veramente degli anni 50-60. A me ricordo, c'è proprio una cosa che epidemicamente mi ha ricordato tantissimo titoli come Forbidden Planet. Proibito, assolutamente. Quando giocai a quel titolo, la cosa che mi rimase impressa fu proprio quel concetto anni 50, che era bellissimo, era stilisticamente parlando, era quello l'entrata interessante del gioco, che era mescolato perfettamente lo stile retro fantascientifico con quello presente dell'epoca, che poi è quello di 90, quindi era interessante come fusione, tra virgolette, ecco. Nessun quadrupede è stato soppresso durante la registrazione di questo episodio. Vai Alex. Ma avrebbe dovuto. Però ecco, mi ho fatto un invento, una cosa che secondo me è un altro fondamentale, se parliamo appunto di filosofia tra virgolette tra cinema e videogiochi. La famosa ditta che è ecco, appunto sempre nel periodo Wimbledon, sempre inizi 90 ovviamente, che già aveva visto avanti con questo concetto, era la CinemaWare, che come casa produsse titoli che fondevano il concetto filmico a quello ludico. Fu la prima a sperimentare bene questo concetto. E ricordiamo, sempre per rimanere in anni 50-60, It Came From The Desert. Che ho qui davanti a me boxato per la 1500. Madonna, ragazzi. È giù a lacrime proprio. Considera che colleziono giochi Amiga da adesso da qualche anno. E spesso vado a caccia appunto delle chicche originali boxate, sudandoci parecchio dietro, perché non è facile, bisogna dire che è molto complesso. Ecco, It Came From The Desert ce l'ho qua perché è uno di quei titoli che all'epoca mi è piaciuto tantissimo. All'epoca mi ricordo ancora quando caricai la prima volta, mi ricordava esattamente che era il film, che era Impero delle Termiti Giganti. Era quello. Poi il fatto che era It Came From, che poi è stato It Came From la serie quella americana anni 50, era perfetto, cioè era la chiave proprio quella, cioè trasportare qualcosa che ho visto in TV, che ho visto al cinema, in chiave ludica. E quello per me fu anche lì lo shock e anche emotivo, perché oltre che all'epoca erano loro geni a livello tecnologico, infatti erano uno dei miglior casi che presentavano a livello ludico e grafico titoli appunto. Beh, visivamente erano artisti proprio. Esatto. 32 colori e non sentirli, come si dice. Bravissimo, esatto. Ecco, ma come It Came From The Desert, ricordo perfettamente uno che rimase impresso era The Rocket Ranger. Che era sensazionale. Wings, cioè titoli che comunque erano strutturati su una sceneggiatura imponente, erano forti, e già quelli molta gente non li capiva all'epoca, diceva ma questi non so videogiochi, so titoli strani, sono poco giocabili, perché c'era anche una sorta di pseudo interazione che era più che altro filmica, come se qui vedi una scena cazzina disegnata, animata, leggere un contesto o scegliere il contesto prendere, quindi la scelta animata breve, e infatti la CinemaWare è andata a finire inculata a Passo Corese, come abbiamo visto fare a tantissime altre software house grandissime. Facciamo una cosa, allora Alex e Biggio, così chiudiamo questo punto e passiamo a quello dopo, perché è il penultimo, però poi c'è l'ultimo, che soprattutto secondo me ci sono veramente un bel po' di cose da dire, non vorrei andare troppo oltre insomma con i tempi della trasmissione. Stefano. Sì, in chiusura. Vabbè, se vuoi chiudere sto punto, se no. Allora, se io avrei chiuso direttamente con sì. Sì. Frega un cazzo, Biggio. Che se ne vado a fare. Io sono qui, faccio la valletta, come direbbe Toio. Che salutiamo sempre. Ciao, il nostro Toio. Caro amico Vittorio. Ti vogliamo bene, io in particolare. Si sente poco, ma è sempre presente nei nostri cuori, diciamo. No, ho detto tutto riguardo al punto che regi. Sì. Saluto. Scusa. Figurati. No, dei registi di videogiochi. Sì, cioè, penso che sia già stato detto tutto, se non abbastanza. Purtroppo, ecco, certe cose che sarebbero potute uscire, dovute uscire, non sono mai state realizzate, ma chissà, magari cavalcando l'onda di questo periodo. Tipo? Un po' remake. Chi sono le cose che dovevano uscire e potevano uscire, non sono mai uscite? Chi so? Beh, non lo so, hai, appunto. Hai messo una curiosità. L'esempio di no, beh, il film di The Dig, ad esempio, sarebbe potuto uscire, oppure magari un film anche animato. Il cinema oggi è diventato veramente troppo poco coraggioso per cose come quelle. oramai se pensiamo che la cosa più coraggiosa degli ultimi 10 anni è un film dove ci sono dei robottoni che ammazzano dei mostri giganti. Esatto, bravo. Porco zio. Che è un'anomalia poi, cioè veramente sì, esatto. Grosso coraggio, insomma, tutto sommato, perché in realtà anomalia, detto bene. Oramai il cinema è diventato l'autocannibalizzazione, cioè nel senso anche quello non è che sia sto film, cioè nel senso i film di Godzilla lo fanno dagli anni 50 la stessa identica cosa. Però voglio dire, allora quindi... uno l'hanno fatto gli americani, non l'hanno fatto i giapponesi, è già questo, capito? Comunque merita solo di andarla a vedere solo per curiosità, guarda, poi magari se... No, ma io sarò ben io lo andrò a vedere, anzi penso che sia uscito oggi qui. No, esce domani in Svizzera. E sicuramente lo andrò a vedere in quanto grande appassionato di robottoni, Evangelion. In tedesco, quant'altro. No, lo vado a vedere in lingua originale con i sottotitoli in francese e in tedesco. Cioè, sono cioè ci sono doppi sottotitoli. Io credo che sì. Cioè non si vede un cazzo praticamente, è pieno di scritte. No, in realtà anche io pensavo che fosse una schifezza. Invece sono, dato che lo schermo è molto grande, le linee sono abbastanza piccole, ben sistemate, non danno fastidio. Io penso che Pizzi bestemmierebbe in entrambe le lingue. Assolutamente sì. Ma tanto in un film come Pacific Rim che te ne frega, guardi il film. Sì, cioè. No, esatto. No, beh, io ci ho visto Django Unchained così, che qualche dialogo già ce l'ha. Lì magari ti aiuti con non lo so, mi aiutavo con quel francese che conosco e con quel tedesco che conosco nelle parti. C'è un cazzo. Dopo l'inglese io penso che ho visto Speed 2 in Lituania, quindi figurati. Tu sei un uomo coraggioso. Però lì sono stati talmente decenti da farmelo in lingua originale senza sottotitoli di nessun genere, capito? Almeno lo so. Vabbè, ma lì bastano guardarli i sottotitoli, cioè se proprio in lingua originale. Tanto appunto Pacific Rim, cosa devo guardare? Il sottotitolo con scritto Stud, il pugno che viene dato al robot. Wow! Esatto. Cioè non ci vado per i dialoghi sicuramente a vedere Pacific Rim, mettiamola così. Peccato, c'è un significato metaempirico rivoluzionario profondo. Immagino, cioè quello di mollare gli F-35 e iniziare a costruire robotoni. Esatto. Finalmente, esatto. Come propongono molti. Esatto, infatti in Parlamento ieri tra Shea Kimmich e Casta hanno detto no, gli F-35 adesso costruiamo i robottoni. Vabbè, dai, sarebbe stupendo. Non facciamo propaganda politica contro la gente che ci ascolta. No, ma io non dico niente. Voi sapete che alla fine mi stanno simpatici tutti, tranne Alfano, ovviamente. Cioè anche Berlusconi ti sta simpatico. Ma Berlusconi per me oramai paradossalmente è come se non esistesse più. In realtà è lì il mio errore, capito? Cioè, è lì che ti incura Berlusconi. Esatto, sto per dire quello. Lui sta già esattamente, lui aspetta quello. Vabbè, comunque, tornando al discorso, Pacific Rim, sì, esatto, potrebbe essere cosa dei Transformer, i film del Transformer che poi sono diventati videogiochi, al contrario, che tutto sommato in alcuni casi non neanche esageratamente brutti, a differenza di molti tie-in, o quello di Batman che ha subito il processo inverso e si è trasformato in un gran bel videogioco, Arkham City, Arkham Asylum, Arkham 2. Sì, ma perché no, ma perché non hanno precedenti, nel senso non sono poi, allora il tie-in che riesce bene è quando non è mai strettamente collegato al film in produzione, perché esatto. Lo vediamo anche col videogioco di Star Trek, che è vero che al Vigamus gli hanno dato 10 su 10, ma vabbè. È vero pure che ne merita 4 su 4, insomma. Cioè 4 su 10, insomma, nel senso che sì, esattamente, è un gioco pessimo, cioè nel senso. Beh, allora il gioco di Dune, quel primo, ad esempio, anche il 2. Ma tutti sono stati così, sempre, da sempre che in questa maniera qui. Ma quelli erano dei bei però giochi. Però era tratto dal libro più che dal film. Sì, però ad esempio i personaggi e quelli l'aspetto estetico era tratto dal film, quindi in realtà cavalcava l'onda del film, quello di Lynch. Sì. Quindi, che posso dirlo, per me è un capolavoro, anche se l'ha rinnegato, cioè io Dune secondo me sì, io non capisco così. Quello che è stupendo. L'esternazione di David Lynch, ma secondo me lo fa, cioè poi sono quelle stronzate che sti personaggi poi dicono apposta proprio per scioccarti, ma come se... no, solo io farmi differenziasse sì, capito. Vabbè, abbiamo capito, sei bravo Lynch, vaffanculo sì. No, secondo me, cioè nel senso lui non so perché l'abbia detto, poi ci sono chiaramente le scuole di pensiero sul film di Lynch e io sono della scuola di pensiero che quello è come Lynch vede Dune. Su Dune poi ad esempio, adesso faccio una piccola parentesi, ma chiaro, a Lynch non gli puoi chiedere, cioè allora, o gli fai fa il regista e allora lui ti fa una cosa come una storia vera, ti fa un film sì, particolare, strano, sempre con tocco registico, ma lui lì fa regista e basta, cioè non è l'autore del film. Se tu gli dici Lynch, fammi l'autore de, cioè che fammi sto film, cioè lui lo fa come cazzo dice lui, cioè nel senso, per quanto io non sia poi uno stra super innamorato di David Lynch, cioè nel senso, o di Tim Burton o gente che poi dopo porta, no, vai, non mischiamo, cioè nel senso, Lynch comunque ha una sua dignità. Tim Burton è un marchettaro, uno che fa i pompini. L'ha persa tanti anni fa. Burton ormai è cioè, sta proprio a frutta. Burton è morto dopo aver fatto Beetlejuice, per quanto mi riguarda. Spesso anch'io lo dico sempre: Beetlejuice è il caposaldo dei film suoi. È l'unico, il primo. Esatto. No, Tim Burton dovrebbe capire che gli anni 80 sono finiti e che persino il cantante dei Cure ha cambiato capigliatura. Quindi esatto. Ma guarda, anche finché non è arrivata questa crisi, gli anni 80 non erano ancora finiti, eh. Per lui. Vabbè, Lynch però rimane sempre comunque uno dei registi sono i più attuali, anche se poi alla fine lui lavora su un discorso totalmente psicologico e fuorviante, perché bene o male sui film suoi la cosa che non si nota subito è sempre le deviazioni che lui inserisce nei film, che è un tocco, secondo me, suo incredibile. Ma questo già dai tempi di Twin Peaks, dalla serie TV, quindi lui lo apprezzo tantissimo per questo, perché riesce a tirare sempre quella, aggiunge quella cosa che tu credi che abbia importanza nel film e invece non c'entra niente. È semplicemente aggiungo questo perché mi piace, però non c'entra niente che la trama, però c'è un momento, sì, a me la gente dice sono bravo a fare questo e cioè lui lo butta in mezzo, ma questo è successo anche ad esempio, ecco, non so se l'hai visto, su Mulholland Drive, sì. Il pezzo del barbone dello psicologo dentro appunto al drugstore, lì quello è una lo spoilerate no, beh, no, adesso cito l'inizio dove c'è un gruppo di persone che ballano e non c'entra un cazzo, cioè, con niente, di nulla, come ti che poi uno bene o male si abitua a queste cose, però la cosa bella è che oltre che lo sai, si abitua, ci casca sempre, cioè ogni film fai bello, vedi, questo vorrà dire cose interessanti, Anna è vero, ci trancazzo, cioè fa così, fa questo effetto purtroppo, però secondo me è un tocco originale che solo lui riesce a implementare nei suoi film in quella maniera, e quindi secondo me allo registico su questo lato qui, a parte Land Empire che per te è una psicosi collettiva, per adesso comunque mamma mia, quello è un film che io non ho capito per niente, cioè io l'ho visto due volte e ho detto beh, alla fine ci rinuncio perché non ce ne esco più a tirar fuori, non te sto a capire. No, io volevo dire una chicca per chi non lo sapesse, appunto parlando di Dune come videogioco, come film, in realtà dopo la Montagna Sacra il caro vecchio Jodorowsky avrebbe dovuto girare il film di Dune, avrebbe dovuto coinvolgere per le musiche Pink Floyd, quindi non proprio gli ultimi arrivati, tra gli attori protagonisti Salvador Dalì pure, e tra scenografi e costumisti Mebius, Chris Foss e Giger, quello di Alien. Pensa, sì, ecco. Posso immaginare, perché se già mi immagino che Santa Sangre fa quell'effetto, pensa a questo collettivo che suscita, che poteva uscire. Cioè, no, esistono solo dei bozzetti del film di alcuni personaggi disegnati da Mebius, esatto, e che sono incredibili, sono bellissimi anche solo i bozzetti, e penso che sarebbe venuto fuori una delle cose più cioè che proprio Lynch chiedeva a loro come avrebbe dovuto svolgere la sua vita. Sarebbe il top dell'onirico proprio, cioè proprio nel senso che è un incubo, da cui non ti svegli più per momenti. Sì, cioè sarebbe stato troppo, e infatti poi il film non è mai uscito. Dal 75, esatto. Questo qui film che dico sempre io che smussano le sinapsi. Sì, cioè solo alcune scenografie vennero realizzate, quelle di Geiger vennero riutilizzate per il film di Lynch, cosa che si può notare, che è cosa che però non si nota molto nel videogioco, nel primo forse, magari qualche atmosfera, ma tendenzialmente non è proprio la stessa cosa. Quindi insomma il parallelo, ecco, secondo me quel gioco lì era stato ben realizzato, anche se era quasi un tie-in, quasi non dico promozionale, ma c'era chiaramente l'interesse nel promuovere il film e nel cavalcare l'onda del film. Ma guarda che è uscito molto più tardi il videogioco, Beh, allora il film è dell'84, il videogioco è del 90 qualcosa. Non dovrebbe essere 89. Continuo a sostenere il fatto che tutti quelli che vengono considerati tie-in di successo sono giochi che non sono collegati alle produzioni cinematografiche. Cioè, cioè lo, anche il Dune è il videogioco, cioè non c'ha nessun tipo di parallelismo col film del 92 il videogioco. Ah, 92, ecco. Ho controllato adesso, pensavo che ma fosse c'è anche un motivo, grazie, a 21 anni, porca puttana. Eh sì, me lo ricordo come se fosse ieri, cazzo. È uguale. Mi ricordo, e quello vi consiglio. No, prego. No, infatti mi ricordo pure io, ho fatto le riviste quando uscì, che è rimasto abbastanza colpito dal gioco di Dune, che era interessante come strutturato, poi era geniale, insomma, quel titolo. Westwood Studios, io vi consiglio, se non mi sbaglio. Mi sembra che sì. Creo Interactive. Creo Interactive, pubblicato, cioè sviluppato da Creon e pubblicato da Virgin. Che deteneva i diritti, mi pare. Quando la Virgin faceva i videogiochi, ragazzi. Cioè. Ed erano anche abbastanza fighi. Vi consiglio la colonna sonora, che è incredibile. Si chiama A Space Odyssey, per ritornare a Space Odyssey, 2001 Odyssey nello spazio. Ed è stupenda, secondo me, io la conosco a memoria. È bellissima. Tutto chiptune, ovviamente, ma... fenomenale, ecco. Quindi detto ciò, sì, insomma, appunto, lì sui videogiochi tie-in è difficile orientarsi, tendenzialmente fanno schifo, tendenzialmente purtroppo, e a volte invece i videogiochi che hanno troppo cinema tendono a risultare pallosi, diciamo. E con questo mi collego al prossimo punto. Ma sì, e poi infatti, Alex, in realtà, pure questo poi l'abbiamo detto prima, quando il videogioco diventa una mera interruzione delle scene di intermezzo, si può ancora parlare di interattività, che poi interattività è un problema relativo, no? Interattività è un discorso legato a un film interattivo, quindi a un Heavy Rain. Qui parliamo proprio di gameplay, cioè nel senso, quando poi le scene intermezzo cancellano proprio l'aspetto ludico, no? del videogioco stesso, chiaramente videogioco. Eppure, ciononostante, qui rientra un po' una particolarità per far capire quanto poi in realtà il termine videogioco sia un contenitore veramente vasto, all'interno del quale c'è un'altrettanto vasta fette differenti di pubblico, è il fatto che comunque non soltanto chi ha amato Metal Gear ha amato comunque il 4, ma anche tanta altra gente lo ha amato comunque a prescindere, perché l'ho trovato divertente, perché piace quel tipo di narrativa, per tantissime altre ragioni. E invece magari lo hanno odiato altri che erano stra super appassionati della serie, o lo hanno odiato persone che comunque il genere di gioco troppo infarcito di cutscene, ma alla fine non interessa, perché vogliono sparare fondamentalmente a qualsiasi cosa che si muove. Quindi alla fine posso aggiungere una cosa proprio, sì, per Metal Gear Solid 4, non avete avuto l'impressione che lui, Kojima, ha detto: devo metterci dentro delle parti giocate, se no non mi guardano il resto del video, non mi guardano il film. Sì. Non l'ho capito, scusa, stavo leggendo. Cioè, no, perché fondamentalmente, cioè, mi sembrava come dire che ti devo diluire questa storia epica e ti devo mettere del gioco, perché altrimenti non è un videogioco, diventa un'altra cosa. Sì. Però ripeto, non, io il 4, gli altri no, ma il 4, che un po' l'ho intravisto, che proprio lo dico, lo ammetto, l'ho intravisto, non l'ho giocato, ho guardato uno che giocava e lui si rompeva i coglioni quando c'erano i cazzini. Io li guardavo, secondo me alcune erano veramente lunghe, cioè non finivano più, parlavano. La più lunga sono 48 minuti. Esatto, quella è quella che ho beccato io. E mi sono detto, è molto giapponese in questo, sì, molto didascalico, sì, molto, sì, proprio, sì, sì, barocco. Ecco perché puoi non piacere, poi, ecco, no? Nel senso, sì, sì, infatti questo tipo di estetica è un'estetica molto giapponese, che riviene fuori anche da film tipo Final Fantasy e soprattutto The Spirit Within, ma anche The Advent Children, che ho trovato un film ignobile per quanto mi riguarda. C'è una cosa, una rottura di coglioni infernale. Sì, è bello, cioè è bello se conosci i personaggi, se ti piace. Sì, ma anche se lo conosci ti dici, cioè, vaffanculo, il videogioco era meraviglioso, questo film ha rotto i coglioni. E la cosa che dicevo con questo punto è: il videogioco serve a giustificare in questi casi le scene di intermezzo, e in questo caso, soprattutto in quello di Kojima, nel Metal Gear Solid 4, il videogioco è una piccola parte di un'opera narrativa monodimensionale, cioè dove non c'è possibilità di scelta. E quello che avete visto di Metal Gear Solid 5, no, come si chiama quello prossimo? Phantom Pain. Insomma, quello che avete visto sono dei grandissimi, delle grandissime scene di intermezzo, ma cioè, mi sembra che appunto poi lì ancora di più il gioco sarà un diciamo una sorta di modo per rallentarti per arrivare alla scena di intermezzo successiva. Questa è stata la mia impressione. Poi grandi cose, gran belle cose, però questo, cioè, chiamarlo ancora videogioco, boh. Io no, non sono no, d'accordo. No, ma è proprio questo, perché poi ne discutevamo, Stefano, proprio tempo fa, poi sì, magari intervieni tu, poi lasciamo parola pure ad Alessio, al fatto del come un medium come questo può evolvere a prescindere dal concetto tradizionale di videogioco, no? Cioè, nel senso che in realtà quando Sony ha investito o ha iniziato a investire tanti soldi verso Quantic Dreams, non lo fa perché Quantic Dreams ci realizza videogiochi, lo fa perché in qualche maniera sta cercando paradossalmente di aprire un nuovo filone di intrattenimento pseudo interattivo che comunque sia collegato con la macchina stessa, cioè nel senso, ok, con le nuove console non puoi vedere i film in Blu-ray, puoi giocare a Call of Duty, però puoi anche fare questo tipo di esperienze pseudo interattive, narrative, cinematografiche, emotive. Può anche essere, cioè nel senso, si possono creare veramente sti sottofilo, anche perché poi vediamo che il pubblico videoludico, come dicevo, sta diventando molto più generalista rispetto a prima, ovviamente, no? Maggiori investimenti implicano necessariamente maggiore pubblico, quindi maggiore accessibilità anche al prodotto, no? Se un videogioco è difficile come era difficile negli anni 80, questi vanno a zampare all'aria domani, chiaramente. Esatto, no? Cioè, questo è esattamente Biggio. Beh, poi non puoi fare Alessio, sì. Non puoi fare, come dire, il gioco come negli anni 80 adesso, se non in casi indie, perché non sarebbe giocabile, ma ne abbiamo detto 10.000 volte, non sarebbe giocabile coi canoni attuali per una questione di longevità, difficoltà, meccaniche del gioco, le due cose non si sposano bene, e quando provano a farlo tendenzialmente o vengono fuori dei flop o li patchano un po' dopo perché dicono ma lo facciamo per i giapponesi al massimo. Quindi ecco, per quanto riguarda appunto il classico Kojima, dipende, lì è più un de gustibus secondo me. Personalmente, sapendo che cosa uno si aspetta, non è difficile immaginarsi che appunto che il gioco sarà estremamente verboso con 10.000 cutscene da 2 ore l'una. Poi dipende insomma dal giocatore, ecco, se vuoi un gioco più immediato è no meglio. Ma scusami, io non dico questo, anzi secondo me deve essere una cosa molto divertente da vedere. Poi se uno entra nell'ottica dell'estetica giapponese, in cui veramente c'è tanto parlato bla bla bla bla, dove però non si dicono mai in faccia le cose vere, va bene, però ripeto, non senti che avrebbe lo stesso sapore anche se ti dicono questa è una videoopera, tu non giochi, metti dentro sto cazzo di Blu-ray e per 4-5 ore, 6 ore, 7 ore, 8 ore guardi sta videoopera e tu non giochi, non avrebbe lo stesso sapore, non sarebbe la stessa cosa? Non so, state fantasie del Disney. Beh, dipende. Poi, dipende quanto vuoi renderla interattiva. No, ma ecco, tu parliamo di Metal Gear Solid 4 o Metal Gear Solid, okay, 5, quello che sarà. Cioè, ti fanno esatto, solo un Blu-ray pieno di film di cazzini, esatto, diciamo, esatto, cioè, senza la benché minima interazione, dici. Sì. Cioè, un film, beh, diventa un film a questo, esatto, punto. Ma non sarebbe la stessa cosa? No. Cioè, comunque la parte giocata è ancora fondamentale. Sì, perché ti permette di proseguire attraverso quella storia in maniera diretta, in maniera in prima persona, ecco, cioè non sei spettatore passivo di ciò che accade, ma attivamente produci le tue azioni, producono una conseguenza e così via. Ogni causa un effetto, eccetera, eccetera, e sei tu che decidi, magari anche grazie ai, non lo so, dei bivi nella storia. Sei tu che decidi di fargli prendere quella via, mentre invece con un prodotto già finito è così e basta, ecco, cioè guardi quello che hanno deciso che tu devi vedere, nel bene e nel male della cosa. Quindi secondo me, magari anche se limitata, quell'interattività lì ti cambia qualcosa entro certi limiti. È chiaro che se dici qualunque cosa io faccia devo solo andare da un punto A a un punto B uccidendo tutti i nemici, non me ne frega niente. A questo punto preferisco guardarmi tutte le cutscene su YouTube e vedere un altro che gioca, ecco. Dipende da quanto rendono bene l'interattività della cosa, e questo è secondo me quello su cui si devono focalizzare, o quello su cui si deve focalizzare Kojima se vuole ottenere un prodotto che sia sia un videogioco che un'esperienza meta cinematografica, diciamo. Guarda, cioè che vada un po' oltre. Ti dico una cosa io, poi veramente passo la parola a Alessio, perché la dico, cioè passo avanti semplicemente perché poi se mi scordo me la scordo, quindi cioè un gioco come, ne abbiamo parlato prima, un gioco come The Last of Us, che oltre ad avere una sua narrativa ha anche una certa emotività, un certo tipo di suspense nelle situazioni, perché comunque possono essere approcciate in una determinata maniera, quindi devi stare molto vigile, devi stare molto attento, cioè nel senso che comunque il coinvolgimento c'è anche nel gioco, non c'è soltanto nella storia in sé. Esatto. Se io però personalmente, quindi sto parlando proprio di me, se le cutscene, chiaramente è un gioco occidentale quindi non sarebbe mai successo, però se le cutscene di The Last of Us per una ragione sensata e quindi prettamente narrativa fossero durate tutte quante il doppio, io me le sarei guardate senza nessunissimo problema, perché comunque so che il coinvolgimento c'è sia nella storia che nella parte in cui poi dopo sono io in prima persona. Se chiaramente un gioco come, perché il problema di Metal Gear non era tanto soltanto il fatto che c'erano delle cazzine infinite, era il fatto che pure la parte ludica, cioè non era niente di sostanzioso, cioè oggettivamente, e quindi cioè veramente c'erano dei punti in cui dovevi semplicemente camminare da punto A al punto B. E lì diventava imbarazzante, credo, diventava proprio cioè se non fosse stato Kojima gli sarebbero andati a bruciare a casa, pure perché la gente ha speso 60-70 euro per comprarlo un gioco del genere. Ma non sono le cazzine il problema è il gioco, capisci? Cioè nel senso che comunque, poi questa è la mia opinione, poi vai Alessio, scusa. No, è assolutamente ragione, anche perché è una cosa che secondo me ho notato che è stata interessantissima, visto la differenza appunto, metti caso appunto parlando appunto di Metal Gear Solid 4 e The Last of Us, è che le cutscene di The Last of Us, oltre a rappresentare diciamo la trama appunto l'intramezzo durante un percorso all'altro del gioco, mettono anche in luce ciò che tu avresti fatto nel gioco, cosa che non c'è Metal Gear. Metal Gear tu vedi il filmato, vedi la storia, ma durante il gameplay non effetti quasi nulla di ciò che ti viene detto durante la storia visiva, cioè durante la serie, insomma i filmati. Invece per esempio ecco, sull'interazione c'è, cioè, su The Last of Us nasce dal filone narrativo visto nei cutscene, come il discorso che appunto che in questo caso appunto abbiamo queste persone che sono infette da sto fungo, e ovviamente visto, sappiamo che sono immuni a tante cose, ecco, nel gioco ne devi prendere atto, cioè, come esempio gli discorsi dei rumori, no, sempre interessante, ho notato in The Last of Us come appunto spiega il concetto che loro sono essendo ciechi sono sensibili ai rumori, il gioco è farcito da tantissimi elementi di contorno che sono intragibili, quindi possono cadere, far rumore, e quindi cioè, il filmato è fatto da virgolette da nave scuola per evitare anche il problema del contestuali gameplay. Sì, è vero, esatto, è tutto contestualizzato e di conseguenza è funzionale, perché oltre che ho visto un ottimo cazzino, qualitativamente elevatissima, ho anche appreso una nozione che mi sarà utile durante il gameplay, che su Metal Gear non c'è, di osservo, vedo il film e poi gioco quello che c'è da giocare. Invece qua il gameplay su The Last of Us è completamente fuso come parallelismo con quello che ho visto nel filmato, che in quel caso lì è più di un contorno, è proprio una sorta di regola illustrata attraverso una storia. Quindi su me è la sua base, segna un punto vocale all'eronarrativo, perché riesce ovviamente anche a esporsi come appunto regola, cioè oltre che regola narrativa della storia, anche come regola di interazione del gioco, che è diverso. E spero questa cosa di vederla anche appunto, visto che parlo della Quantic, su per la Sony col prossimo Beyond Two Souls. Sì, anche se a me oramai, io sono un grande fan sono un fan proprio della prima ora di David Cage, anche se ammetto che comunque lui c'ha dei limiti e la dimostra porco dei due che dei limiti, alcuni, c'ha dei limiti e purtroppo spesso e volentieri non è riuscito a... Il limite ce l'ha già nel nome, gabbia. Ti dico solo questo, la gabbia. Ma non è, ma guarda che non è inglese, eh. Sarebbe David Cage. Il nome d'arte è quello, non è il suo. Comunque anche il discorso di ingaggiare i nomi, comunque, come ecco appunto William Defoe, meno male che l'attore comunque ha affermato, cioè questo si fa capire come la cosa si vuole fondere proprio, perché alla fine non è che dici ha utilizzato un personaggio qualsiasi e poi ha fatto una mappatura di William Defoe perché ti piace quel personaggio, come avvenne, come avvenne con le Muscia 3, con le sia fu, cioè Renault. Invece qua hanno ingaggiato gli attori stessi per fare la parte stessa nel gioco. E già questo da capire come l'approccio sta cambiato totalmente. È vero. No, che poi. Sì. Speriamo in bene, perché veramente le due promesse di quest'anno, uno è, secondo me, veramente stato il più bel gioco di questa generazione. Stupendo. Con un finale che ovviamente non spoileremo, ma un finale morale, cioè nel senso un finale molto molto bello, ecco. Beh, sì, con la bambina che muore, no, al di là della bambina che muore dico, è il finale morale nel senso che tu puoi dire a te stesso quello che avresti fatto tu, cioè nel senso sì, esattamente, te lascia libero e libero arbitrio proprio anche un po' di pensiero su come tu avessi strutturato l'idea. Non è guidato, non è moralizzato, no, non è moralizzato, è morale il finale, che è ben diverso, perché comunque che poi esatto. Che poi senza spoiler c'è anche una scena molto forte nel finale che può essere vista e interpretata come più ti senti, e la maggior parte della gente in quel momento l'ha interpretata nel peggior modo, ma il gioco era fatto apposta per fartelo intraprendere nel peggior modo per dimostrare anche come la rabbia ti può portare a dei livelli veramente esatto, elevati. No, ma lui è un personaggio straordinario. Premesso sì, questo, sì, perché lui nella sua evoluzione, cioè lui è un brigante, no? Nel senso che alla fine quello fa nel nuovo mondo, no? Nel mondo certo, post pandemia, no? E quindi comunque quello lui faceva, era un contrabbandiere, però la sua evoluzione come personaggio, che lo fa diventare quasi un mostro poi alla fine, cioè nel senso agli occhi, cioè nel senso cerca poi di dipingertelo in una maniera che con una certa brutalità, che in effetti è e riflettici, no? Immedesimati, contestualizzati. Esatto. No, nel senso è particolare, ma non è forzato, però, capito? Cioè, qui, No, anzi, secondo me ci va quasi naturalmente. E ti dico la verità: pochi film negli ultimi 10 anni mi hanno dato questo senso di naturalezza narrativa. Pochi film, non dico nessun film, però. Infatti ti dico, ribadisco, The Last of Us è stato, secondo me, il gioco di questi ultimi. Insomma, non scherzo, 6-7 anni, assolutamente il migliore per completezza. Cioè, per me, insomma, gente che dice però è perché insomma non hanno capito anche il senso del gioco stesso. Perché io sentivo certe eresie dietro a tutto quanto, c'è gente che non ha capito neanche la metafora stessa della storia, che è invece imbarazzante, invece tutto, cioè la chiave di tutto è anche il discorso della ribellione della natura verso il fronte dell'uomo, che l'uomo che distrugge la natura è la natura che riprende il suo posto sulla terra. Cioè anche questa metafora qua nessuna, cioè un po' che l'hanno percepita, ad esempio. No, perché sono tutti concentrati sul filone zombie. È bravissimo. Mentre invece qua lo zombie non è un zombie, non esiste un zombie su questo film, cioè su questo gioco, scusa, è proprio questo il discorso, è l'idea di proprio dimostrare come se l'uomo crea un danno all'ambiente, non è detto che l'ambiente prima o poi creerà un problema all'uomo, all'essere umano. E anche questo, secondo me, è un concetto interessante. Cioè, quasi come delle giraffe appunto in America, uguale, la stessa cosa. Però, no, ci sono delle scene veramente evocative, comunque. Grande. Capolavoro. Mi piacerebbe, una volta ne parleremo a settembre e sarà una puntata spoiler free, quindi andate tutti a fanculo. Perché se ne deve parlare, se ne deve parlare, no? Nel senso che. Sì, anche perché è talmente vasto e completo che davvero ogni sessione del gioco ha tanto da raccontare. Ha tanto proprio. Alex, andiamo all'ultimo punto. E andiamoci. Vai. Ah, tocca a me. Sì. Hai letto sempre finale. Sì, perché la mia voce oramai mi sta veramente abbandonando. Ah, stai alla morte, sì, alla bravo, morte totale globale. Va bene, ok. Quando il videogioco tenta di ricreare con motore di resa in tempo reale qualcosa che praticamente si potrebbe girare dal vivo, la scelta di carattere stilistico oppure non è ancora giunto il momento di tornare ad attori veri? E inoltre, se riusciamo ad arrivare ad attori digitali che non sono più distinguibili da quelli veri, allora potremo tornare ad utilizzare quelli veri che in fin dei conti possono anche costare di meno? aperta parentesi, qualunque merdata fatta dall'autore di Heavy Rain, chiudo parentesi. Vabbè, allora tu vuoi proprio l'odio? Io sì, assolutamente. L'odio lui è un vorrei ma non posso, allora faccio quell'altro. Ma guarda che con Heavy Rain non ha fallito del tutto, anzi, devo dire che se non ci fossero stati quei due o tre buchetti, l'esperimento emotivo è riuscito, cioè comunque sono dei... Sì. Comunque sono dei, cioè, dei punti. L'esperimento emotivo che costava 60 euro. Cioè. No, cazzo. L'esperimento emotivo è farteli sgasperare. Se dobbiamo banalizzare così, allora vabbè, sti cazzi, non ne parliamo neanche. Non fammi scherzare. Non litighiamo di politica e litighiamo per David Cage. Assolutamente sì, no, David Cage. Va a cagare. Ma già con Fahrenheit lo sono sposti parecchio. Sì, e lì il problema è che a un certo punto il gioco prende una deriva che proprio se ne va a cazzo di cane, no? Però la prima metà, la bambina che muore, ci stava tutto. Sì. Vabbè, comunque. No, la domanda è molto semplice. Quello che vedo continuamente è banalmente fare delle cose che sembrano sempre più reali. Io sto lavorando per una società che si sta occupando del doppiaggio in italiano del prossimo Battlefield. Non vi sto a raccontare tutte le cose. L'oggetto originale di Battlefield, cioè come stanno facendo girando Battlefield, lo stanno girando con la stessa tecnica di Avatar. Praticamente prendono N attori, ognuno che ha il sensore di movimento su tutto il corpo con i marker per il motion capture e una telecamera puntata sulla faccia per il performance capture delle frasi, e praticamente li mandano vestiti appunto con le tute di motion capture a combattere digitalmente, facendo finta di sparare le solite cose. Li fanno recitare, e l'obiettivo è quello per i Battlefield, per la prossima Xbox One Tani a dirsi voglia, è quello di appunto di ricreare le scene più realistiche possibile, le recitazioni più realistiche possibile. Non siamo ancora arrivati ai livelli di avere degli attori reali, anche se David Cage ci sta riuscendo con i suoi tech demo che ti fa pagare a te pizzi quando gli compri Heavy Rain. No, gli paga Sony, non ti preoccupare. Sì. Però ripeto, se un giorno arriveremo ad avere attori veri, cioè attori finti digitali che sono praticamente indistinguibili da quelli veri, ma non ha senso riprendere quelli veri che costano meno? Secondo me no. Perché? Allora, le motivazioni sono di vario genere. Uno, strettamente economico, nel senso che io posso prendere anche un attore che c'ha i squarci in faccia e che quindi mi costa di meno a fargli fare sia la voce che le movenze di un determinato protagonista che può essere sto gran figone, e che se fosse strafigone come attore mi costerebbe sicuramente di più. E qui già ti frego io, scusami, e tutti i coglioni che fanno il performance capture? Le 50 persone che devono farsi un mazzo per questa roba qui? C'è stata una volta una discussione sul fatto del quando uscì, prima che uscisse Heavy Rain, c'è stato tutto un discorso sul fatto che molti attori di Hollywood volevano partecipare a questo tipo di interpretazioni, perché era comunque un esperimento nuovo, era una cosa particolare, roba del genere. Io dico solo Elle Noir, scusate l'interruzione, non ecco, anche Elle Noir, bravo, esatto. Ma Elle Noir addirittura poi proprio il tipo di tecnica anche sulla cattura delle espressioni, insomma, ci hanno fatto un sacco dei pipponi e via dicendo, no? Però poi il discorso è chiaramente maggiore è il cachet dell'attore e minore è le potenzialità della software house, che ovviamente non può investire tutto soltanto su quello. Aggiunto il fatto che comunque quello che si sta facendo, per esempio quello che fa Naughty Dog in maniera particolare, ma che fanno un po' tutti, è quello di portare al limite più sottile la differenza tra gameplay, quindi parte grafica del gameplay e parte grafica delle cutscene. Il riutilizzare attori in digitale, quindi praticamente ridigitalizzare e mettere in full motion video, ci riporterebbe praticamente 25 anni indietro dal punto di vista tecnologico. Perché? Perché chiaramente quando noi andiamo nella parte del videogioco il distacco sarà sempre maggiore, sarà sempre ampio. Addirittura qualcuno recentemente diceva: ma scusate, ma non è possibile prendere proprio l'attore e fargli fare il personaggio? Ho detto: qui però torniamo 30 anni indietro, nel senso, quando esatto. esatto. Quando ovviamente la grafica vettoriale o la grafica 3D ti permette di fare accordi di animazione che altrimenti dovresti fare con migliaia e migliaia di digitalizzazioni, insomma, senza considerare quello che sarebbe il costo di tempo e il costo ovviamente di immagazzinamento di tutti i dati digitali. Detto questo, secondo me questi sono i due dati fondamentali. Secondo me un attore digitale costa di meno e comunque è più integrabile all'interno del gameplay e soprattutto per certe cose è anche più affascinante da un punto di vista stilistico. Sì, beh, prego Alessio. No, io provo perfettamente quello che ha detto appunto Simone, anche perché proprio il concetto stesso è anche ricreare qualcosa, anche perché appunto già i costi stessi su me sono ridotti tantissimo e comunque c'è una scelta stilistica che è talmente elevata, che è talmente variabile, che alla fine secondo me anche ricorrere forse appunto a un attore famoso, sì, è un po' fine se stesso. Ecco appunto, avendo citato prima Beyond Two Souls, in quel caso lì hanno ingaggiato proprio gli attori stessi per fare la parte stessa nel gioco, con costi comunque molto più elevati rispetto a creare un soggetto da zero inventato digitalmente, come potrebbe essere una Drake, che magari ecco ha tratti somatici ispirati a qualcuno che si è visto al cinema, ma è ispirato, ma è completamente digitale, senza ricreare una digitalizzazione su un personaggio che in realtà esiste. Poi ecco, se appunto dobbiamo pensare a creare nuovamente i full motion video di tramite, quasi quasi me ne, cioè non so perché in questo momento venuto in mente, non so se lo ricordi, all'epoca del 3D quando uscì The Horde con le cazzine, con Kirk Cameron che faceva il giocatore di corte nel castello e poi nel gioco, ce ne stavano una marea dei giochi così, cioè, sì sì, ho fatto un esempio così perché mentre quello che appunto era, tutti quanti compravano il gioco prevalentemente non perché era un tattico medievale ma perché c'era Kirk Cameron che faceva parte nelle cazzine, vedo com'è. Eh sì. Infatti il costo evidentemente del gioco era talmente elevato perché erano stati ingaggiati attori tra cui lui che costava tantissimo per quanto riguarda il discorso dell'ingaggio, perché il gioco in sé per sé era un classico, quel caso lì era un tattico isometrico, no? Con un gradiente di sessioni action, quindi bene o male era a costo ridotto. Però quanto realmente è giusto investire sugli attori sul mio gioco quando il personaggio lo puoi ambientare da zero leggermente ispirandoti appunto a un attore? Ecco, l'esempio perfetto è quello che ho fatto attualmente con la bambina appunto di The Last of Us, che la maggior parte della gente ha detto la bambina di The Last of Us assomiglia tantissimo a Ellen, no, Page. Veramente lì, però aspetta, lì c'è stato un problema effettivo, c'è stata pure una polemica su quella questione là. Sì, perché era Ellen Page, cioè poi dopo il fatto che il Sony ha proibito a Naughty Dog di utilizzare il volto perché stavano uscendo due giochi con Ellen Page, cioè come, esatto, perché poi lei era implicata sul discorso dell'utilizzo su Beyond, quindi chiaramente su Beyond, esatto. Anche se però realmente è stata lei, come anche il discorso del Joel, che loro sono spariti al volto dell'attore che ha fatto cosa, si chiama American Horror Story, non mi ricordo il nome, però vedi, loro hanno detto ci siamo ispirati come concetto fisico perché è quello che fedele, ma non perché hanno scelto lui come attore. Si sono ispirati a livello di fisionomia in generale, insomma, come punti cardine, ecco, però ecco, come è bello anche vedere i personaggi totalmente in mente da zero, cioè comunque creati digitalmente senza per forza utilizzare l'attore stesso, anche che Kojima disse che voleva utilizzare all'epoca del Metal Gear Solid il volto di cosa, non ricordi com'era, di Cartrasser. Ah sì sì sì, sì, recentemente l'ho letta sta cosa, sì. Che in realtà poi tant'è, infatti i post di Alex Snake, perché Alex che fa il lavoro che fa mi insegna che un attore di serie B rende il film di serie B, ma visivamente, cioè nel senso, sì, la certo, bella faccia costa. Ancora una volta mi metti in bocca parole che non ho detto. No, non ho detto, infatti non ho detto che l'hai detto, ho detto mi insegnerai, voglio dire, poi se tu puoi smentire quello che io dico, cioè nel senso. Beh, ecco, certo, un Kurt Russell sarebbe stato molto da richiamo. Però vedi, ad esempio, lui vuole Kurt Russell come punto di riferimento per la serie, non c'è stato, ha creato il suo personaggio Snake, che comunque ha i contatti appunto diciamo tra virgolette, anche perché si è ispirato anche a lui, anche al discorso del nome, della band, tante cose, però realmente tu hai usato un personaggio inventato, ispirato a, e ha funzionato nel tempo, e ancora funziona oggi, cioè oggigiorno, quindi vuol dire che comunque, anche se non ho preso il botto realmente dei Kurt Russell, hai dato fuori un'idea che nel tempo ti ha portato fortuna. No, no, ma forse anzi, proprio perché cioè, poi oramai, cioè a oggi, talmente caratterizzato il personaggio che prendi e metti il volto di una, cioè sarebbe stata pure una follia. Esatto. Poi, tra l'altro. Esattamente, infatti, secondo me diciamo, si può come non si può. Io okay, apprezzo anche l'idea di vedere comunque questi attori che sono affascinati da questo mondo e quindi vogliono entrare quasi qua. A tratti anche ripetentemente dicendo: ah, voglio fare la parte perché sanno che adesso comunque c'è tanto richiamo e perché appunto il concetto ti supporta in questo. Però secondo me non è così tanto necessario. E che ricordate tutti da non pagare mutuo, eh. Cioè, se tu vedi uno come Tim Roth che si mette a fare serie televisivi, vuol dire che non ci sta più tutta sta trippa per gatti, insomma, evidentemente. Esattamente. E comunque c'è sta storia perché la gente appunto forse necessita, ma forse secondo me è anche molto il fashion. Che ah, sì, no, mettere, è vero, una cosa nuova, cioè, innovativa. Bisogna mettere che la differenza di una volta, ecco, il videogioco tra gli anni 80 e inizio 90 era visto sempre come una cosa di nicchia per l'appassionato che con cui c'è cresciuto sin dall'inizio. Adesso è più un fenomeno di massa, è più massificato, adesso è più tutti hanno una PlayStation a casa. Una volta mi ricordo, negli anni 80, avere una console a casa non volevo dire che eri ricco, un po' ci mancava. Io mi ricordo queste cose, non era tutti avere un Commodore 64 a casa, un'amica, era comunque avere qualcosa che hai, perché sì, passione. Oramai sono elettrodomestici qualcuno... che stanno all'interno delle case di tutti, insomma, a differenza. Esatto, perché adesso ho lettori di DVD, sono lettori Blu-ray, quindi c'è una doppia funzione, ci interagisce nello internet, e quindi sono macchine multimediali, tra virgolette. Non è come una volta che se c'è una console per giocare, era soltanto per giocare, o se un computer era per giocare e per utilizzi informatici. Quindi sai com'è, era un po' più brutto di nicchia. Infatti la Nerd Generation reale è quella del passato, quella odierna, solo perché sono taglioli. Cioè quando vedi ragazzi in giro su Facebook a mettere cose, ah, nerd così, quando non sanno neanche il VD e il concetto realmente di essere nerd, un po' sceriti. Poi c'è gente che magari, ecco, è over 30 e comunque ha visto quel decennio crescendoci sopra, capisce che vuol dire il senso. E secondo me questo sviluppo attuale nasce anche per una sorta di richiamo commerciale, funziona, faccio soldi, quindi perché no? La tecnologia mi supporta tutto quanto, realizzo un prodotto dove c'è anche il mio volto. Questo secondo me vedono gli attori. Sì, probabilmente. No, ma abbastanza. Ma anche per la musica, questo vale anche per la musica, perché quanti soundtrack sono realizzati adesso anche da autori? Beh, a me coglioni, a voglia. Cioè, poi i giochi della BioWare in particolare, ma mica soltanto. Esattamente. Nel senso, comunque, quindi c'è... tutti i composer, insomma, con i cosiddetti contro Zebedei. All'epoca io mi ricordo, ai tempi dell'Amiga, e come c'è stava il grandissimo di Salzburg, che io ritengo il synth per. Della vecchia scuola, che molti adesso manco conoscono, però lui ha classificato il concetto sonoro per un videogioco, con la sonora per il videogioco. Adesso invece ovviamente si chiamano tutti quanti, perché adesso si può comporre a livello, cioè, a 360 gradi, a virgolette, orchestralmente parlando, dico, non è più un discorso utilizzo il professore del computer in SID e faccio la musichetta, adesso è totalmente più elevato, cioè. E insomma, ecco, è questo. Eppure di musica, mi sa, caro Biggio, prima o poi ne dovremo parlare in qualche puntata di Teologia. Tanto oramai abbiamo affrontato qualsiasi tema. Adesso te, vai. Te e poi Alex. Così io, ok. Per me la perfezione della digitalizzazione è stata raggiunta con Mortal Kombat 2. Volevo dire questo in primis. E io la digitalizzazione perfetta non c'è mai stata. Abbiamo visto degli scempi. Quella è la perfezione. Mai, guarda, quella è l'assoluta perfezione, secondo me. Dovremmo anzi tornare a quei tempi, quei personaggi digitalizzati così, con un po' di plastilina per fare Goro, quelle cose legnose. Alla Beat Fighter proprio, dai. Esatto, Madonna Santa, ecco. Quelli sono gli esempi da evitare. Poi ci sono quelli di Mortal Kombat. Detto ciò, ecco, ritornando al punto iniziale. Ma io faccio scusa, poi vai tu. Sì. Cioè, nel senso, faccio un esempio su tutti: Phantasmagoria 2. Cioè, nel senso. Ah, ok. Ma anche l'uno. Anche l'uno, l'uno peggio che mai. Cioè, ragazzi, ma vi ricordate? Cioè, proprio a livello pure dell'interfaccia, clicchi lei che si sposta e devi aspettare che lei fa il movimento. Sì, e poi si gira. Sì. Poi completamente staccati dallo sfondo. Sì. Anche se lei è un bel troione, comunque. Sì, mazza, no, perché che salutiamo. C'è pure la scena di sesso a un certo punto. È stata avveneristica. Grandi videogiochi. Era quel gioco piccante cui giocavo. Su anche Dark Seed non era fatto così, vero? Chi? Sì, anche Dark Seed. Dark Seed. Sì. Quello di appunto da qui. Kiger. Esatto. Spettacolo, poi ricordo. Di quello lì. Detto ciò, appunto, ritornando al punto iniziale, direi che secondo me dipende un pochettino anche lì dai gusti delle persone, ma l'utilità di utilizzare tutte queste tecniche rompipalle con l'attore più i sensori più questo più quello sono che puoi far fare allo stesso attore un'enorme serie di cose senza il come dire il peso di una costruzione fisica, magari di una scenografia o di un ambiente. Poi non so, a dir la verità, adesso chiaramente non ne sono mai preoccupato della cosa, se costi di meno riprodurre un certo ambiente in 3D o se costi di meno riprodurlo nella realtà. Però penso che, facendo un esempio, far girare tutto in un enorme prefabbricato con ricoperto solo di schermi verdi, scusa, e tavole schermi verdi sovraelevate a seconda di quello che ti serve, insomma. Esatto, costa meno che mandare un intero cast in Vietnam. Ma lo penso così anch'io, insomma, io penso che se lo fanno ci sarà una ragione. Ma io non è che sì, poi sul fatto che il risultato finale non sia identico penso che sia anche una questione di tempo. A me, ripeto, 10 anni fa avevano promesso il fotorealismo. Dopo 10 anni non ci siamo ancora arrivati completamente. Però, ci stiamo avvicinando, ammazza che schifo. Cioè, No. Ecco, però non è che, come dire, tranne in certi rarissimi casi, ma sono foto singole. Non ho ancora visto il videogioco, che non capisco se è un videogioco o se è un film. Letteralmente. Cioè, o meglio, magari per lungo tempo, cioè nel senso, magari in un primo momento dico ehi, aspetta, questo videogioco è un film, magari vedendo il prossimo Gran Turismo non capisco se è una scena presa da un vero filmato oppure oppure un videogioco, però dopo 5 secondi me ne rendo conto, ecco. Ma c'è sta anche, ma l'obiettivo secondo me è quello di arrivare al punto. Beh, no, secondo me uno degli obiettivi, almeno per quanto mi riguarda, sarebbe bello averli, non rendersi proprio conto della differenza tra il film vero e il videogioco. Cioè lì, secondo me, sarebbe la perfezione della digitalizzazione dei personaggi, delle scene e così via. Però secondo me lì si rischia un po' troppo invece di uscire fuori dal canone classico di videogioco. Cioè, è ovvio, è affascinante perché, come hai detto, è arrivare a un dunque all'ero tecnologico come evoluzione, però poi quanto realmente c'è l'attrazione tra film e gioco, e c'è la fusione poi diventa unica, cioè diventa capisco, però parlo solo di un aspetto estetico sul costo estetico. Quindi, sì giustamente no solo esclusivamente estetico. Per quanto riguarda i contenuti dovrebbe essere appunto il nuovo Call of Duty, il nuovo Battlefield, quello che è, però realizzato come salvate il soldato Ryan come aspetto estetico, per dire, sì, che non capisci se è l'uno o l'altro, okay. Tutto lì, e poi mantieni i canoni del videogioco classico e così via, o insomma se fai qualche innovazione di sicuro nessuno si mette a piangere, ma non sarebbe mai. Infatti si è rimasto parecchio impressionato anche dai demo tech recente, hanno fatto vedere anche tipo, ecco, un arcade game come appunto Need for Speed, di quello nuovo, no, che c'è, cioè piattaforme nuove. Cioè, lì davvero era quasi fotorealistico, lì per lì. Beh, o un minimo di salto ci deve essere, se no che cazzo sta. No, cioè, ma sai. Quello che si è visto, cioè, nelle demo tech, quello che si è visto in gameplay, il salto c'è, cioè, è pure parecchio elevato. Nel senso che, per quanto uno magari subito di macchitto non distingue troppo la differenza, in realtà la differenza è molto, molto elevata. Certo, forse a occhio non è come da 128 bit a queste attuali. Però secondo me i picchi si vedranno soprattutto sul discorso fisico, sul discorso illuminazione, sul discorso della dinamicità, del frame rate, cioè oltre che ovviamente sulla composizione grafica. Comunque secondo me adesso si arriverà a livelli molto molto spinti, anche che l'hardware permette. Beh, non è un male, secondo me. È un bene, anche se anzi, è un bene poi se i costi sono più ridotti per lo sviluppo, e comunque anche infatti anche la scelta stessa di usare un X86 come core delle macchine, proprio per far sì che tutti quanti i programmatori, anche quelli un po' più neofiti, riescano insomma aggiungersi un pochetto bene sull'hardware e poi creare qualcosa di sì, più o meno semplice, più semplificata, ma in realtà anche di qualità. E su me si vedranno molto molto delle belle, anzi forse molto più in questa quadra immaginazione che su questa attuale console. Beh sì, adesso, vabbè, mo perché fino adesso sono arrivati al limite, però si sono dovuti tenere, secondo me se stanno ad approcciare una nuova generazione dove proprio secondo me si sfogheranno. Ma guarda PS3 c'è una sfortuna di differenziarsi con Xbox 360 truccato sul processore, cioè usando il Cell ha creato tra virgolette un danno a chi programmava come casa minore, sia per i costi e per la difficoltà di poter programmarci. In realtà perché loro pensavano di averci ancora una forza di nome e di mercato tale essere seguiti dagli sviluppatori, perché poi cioè, l'architettura guarda, del Cell voglio dire, cioè poi vabbè non rientriamo in vecchi discorsi insomma che no ecco, io concludendo direi che comunque non mi dispiacerebbe se facessero il tentativo di utilizzare nuovamente attori veri nei videogiochi senza, cioè tra virgolette digitalizzandoli, ma non digitalizzandoli stile Mortal Kombat o stile L.A. Noire, ma facendo una cosa tipo filmato interattivo tra virgolette, come poteva essere appunto un Fantasmagoria, un Seven Guest, cioè ti piacerebbe questa cosa? I vari, ma mi incuriosirebbe, non so se mi piacerebbe perché no beh cioè i tentativi sono già stati fatti, però adesso non si fanno più. Fare una cosa appunto come poteva essere, non dico Wing Commander, ma una cosa che sia ben fatta con attori veri, semplicemente inseriti in un contesto digitale ma non in un ma non digitalizzati, boh, secondo me si potrebbe, sarebbe una scelta troppo coraggiosa forse in questo periodo, ma chi lo ma sa. Ma guarda, io penso magari che sto per dire una cosa che allo stesso tempo è anche una bestemmia, perché sapete che io non sono un grande simpatizzante della nuova Xbox Antani, però secondo me la nuova Xbox Antani secondo me sta facendo qualcosa di interessante con Quantum Break, il fatto che il gioco è strettamente legato al serial televisivo e quindi in qualche maniera serial e gioco sono estremamente correlati, se non addirittura Ok, ma quello vedere non in come però sì, vedere ma quello che bisogna capire questa sembra sì, interattività cioè modello Capitan Power proprio No, ma mi ricorda un sacco questo concetto di interattività tra filmato e tra serie eventualmente videogioco, mi ricordava, non so perché mi veniva in mente, non so se ti ricordi anni 80 c'è stata Capitan Power, la serie, no? Oddio, non lo sai, forse quella fantascientifica, e che all'epoca permisero quindi attraverso il film di interagire con i giocattoli come se fosse un videogioco temporale con il film stesso. E quella fu una delle interazioni tra serie TV e giocattolo esterno, che comunque interagiva per avere qualcosa di separato. Quindi ecco, questa concezione di Quantum Break per quanto riguarda non è innovativa, ma semplicemente era trasposta ai giorni d'oggi con queste tecnologie. Che però è interessante. Sì, infatti. No, è quello, cioè nel senso, però bisogna vedere se è semplicemente un mezzo per monetizzare, diciamo. È quello il problema. Nel senso che no, ok, no, ma per monetizzare, ok, non dico che sono delle onlus che te lo fanno perché ci piace vedere la gente giocare, ma dico, c'è anche un discorso dietro che con un minimo di interesse nel far giocare la gente, o è solo che tu ti guardi il telefilm e poi rifai un tot di cose nel videogioco, punto, perché a quel punto lì non serve a niente, no, cioè dire, nel senso non ha la benché minima innovazione né no, potrebbe essere che tu vai dalla stanza A alla stanza B e parte la cutscene del primo episodio, poi finisce l'episodio, devi andare in un altro punto e parte il secondo episodio, chi lo sa, cioè veramente Kojima, cioè nel senso vediamo sì no, ma cioè così, non lo vediamo, so veramente, cioè, non... anche perché no, a me la Remedy, devo dire la verità, molto, ma molto deluso con Alan Wake, ma non tanto perché Alan Wake fosse un brutto gioco, ma perché l'avevano cantata troppo. A me quando tu fai troppo il misterioso e non fai vedere niente, te la canti e non fai vedere niente, a me con Quantum Break mi sembra di rivedere la stessa storia, capito? Cioè bene, è fatto che Remedy è un po' troppo paracula, perché comunque secondo me all'epoca, come hai detto bene, fecero troppo propaganda e propaganda inutile, e poi cioè parliamo sempre di giochi, è uscito 5 anni dopo, che non so se ti ricordi fu il primo gioco presentato per Xbox 360 in fase di programmazione quando uscì nel 2005 la console, e poi si è visto 5 anni dopo. Sì, ma poi doveva essere l'anti-Heavy Rain, cioè doveva essere tante cose che in realtà poi, per carità, carino, un bel gioco, ma No, ma a me è piaciuto molto. È stato la metà di quello che avevano promesso. Anche se mi ha... Esatto, metà. Sì, esatto. Cioè, doveva essere un free roaming horror ed è diventato un action. È diventato... Esatto, Avenger, esatto. Horror circa, ok, per è diventato cosa? Però, ecco, Uncharted nel buio in pratica, guarda, in senso. Sì. Sì. Sì, io mi sono basato su quello che era il gioco, non su quello che avevano promesso, e più o meno ci sta, ecco, però anche lì non è, cioè anche questo qua non è che riguardi, come dire, la parte di cinema in questo è sempre relativa, sì, è molto cinematografico anche. Beh, più Wake, televisivo, più televisivo. Quelle parti televisivo, esatto, televisivo, poi con lo stile Twin Peaks, sì, anche con fatto, fatto degli episodi, sì, no? Esatto, nell'episodio, esatto, precedente, sì, nell'episodio quello, oppure esatto, quando c'è la miniserie stile che ti guardi nelle TV, esatto, ecco, bravo, fine in realtà quello molto bellino, molto ben fatti anche i mini episodi, a me sono piaciuti molto. Io ho visti, spesso mi dicevo, mi mettevo lì a guardare le televisioni accese e mi mettevo a guardare la puntata di Night Springs, non giocavo. No, ma quello l'ho fatto anche io perché mi piacevano molto gli episodi. Bellissimi. Perché mi piace molto anche i confini della realtà, perché aveva delle trovate geniali per degli episodi autoconclusivi praticamente. E quello magari è già più cinematografico, meta cinematografico, meta interattivo rispetto a ti metto la cutscene presa dal telefilm o dal film, o, insomma, non era un contentino quello era una cosa in più, esatto, extra, ma non era per farti stare zitto, per non farti lamentare nei forum, infatti, che, o per farti dire ah sì, qua stiamo facendo cose innovative. Quello magari, ecco, era una cosa assolutamente gratuita tra virgolette inserita lì, che ci stava anche bene nell'atmosfera del gioco. Preferisco questo appunto a tutto l'ambaradan stile Wing Commander, stile il marchettaro hollywoodiano, ecco, alla cosa. Poi sì, gli errori che ha commesso Remedy, quello è un capitolo a parte, e ne ha fatto tanti, però però capito, cioè rivede un po' questa sensazione devi vedere una storia già vista, capito? Quindi ti presenti, fai tanto clamore, non fai vedere un cazzo, a me già me, capito? me puzza, sì, a sì, me sì. Quando posso vedere queste cose, la stessa cosa che Alan Wake, mi sembra di rivedere, che poi con Alan Wake negli anni ci hanno fatto rivedere sempre quella tech demo del sole che girava per far vedere le ombre, sì, cioè sì, sempre la stessa cosa che avete fatto vedere. La montagna, sì, si è pezzo in pizzo. Sì, perché poi era bello, cioè, nel senso, per carità, però, cioè, vabbè, comunque tu, a te mi piacerebbe quasi se ci fosse, insomma, un esperimento, io, diciamo. Se così, un esperimento, esatto, più che una cosa proprio seria, IP nuova che dobbiamo realizzare per i prossimi 15 anni. Un esperimento. Anche low budget, ecco, preferisco l'osare piuttosto al Assassin's Creed. Basta, 20. Sì, no, vabbè, esatto, basta, morì, sì, cioè, basta. Ecco. No, cioè, ma preferisco, lo sai che quelli ormai non hanno il motore di fare qualcosa, per chissà quanto. Oh, per carità. Stream scimpio. Tutto il diritto. Se pensi no, ma io ero già, ma io ero già rotto il cazzo al secondo, cioè, nel senso, a metà del secondo mi ero rotto i coglioni. Sì, ma il terzo è un gioco manco d'estate, è solo bug. Cioè, penso sia un gioco. Cioè, metti in commercio un gioco perché fa richiamo senza fare un controllo dei. Sì, i soldi. C'è un gioco solo bug. Cioè, alla fine dici, vabbè, ok, ma uno spende 70 carte per un gioco. E poi il gioco è lo stesso, cioè il primo, il secondo e il terzo, cioè, fondamentalmente. Cioè, anzi, è peggio, perché adesso è la differenza prima è il testo è tutto guidato, fai questo, fai quest'altro, così forse il primo era quasi era il più originale, perché comunque in qualche maniera sicuramente era molto più aperto. Invece questo no, oltre che sono guidati, sono limitati e sono buggati, quindi penso che sia apoteosi di proprio schifo, cioè lì commerciale punto e basta. Assassin's Creed è merda, no, lo sapete, sono il terzo lo boicottare per proprio cose personali, non c'è un'altra caricata, ho detto ma che sta merda, mi sono buttato, cioè avevo proprio venduto super, cioè 3 giorni dopo l'ho venduto, no, io cioè, manco detto, io sono arrivato a metà del secondo e mi sono proprio rotto il cazzo. Senti, allora Alex, ok, vorrei solo correggere un paio di cose che secondo me non sono, cioè nel senso rispetto alle vostre opinioni, ma non condivido il fatto che gli attori veri costino di più. Ok, questo probabilmente lo sai meglio tu, infatti. Sì, sì, perché sì. Allora, se tu pensi, non puoi dire che gli attori di serie A sono Jennifer Lawrence e Brad Pitt. No, cioè, nel senso, quelli sono super top, top, top, top, top, ma sono. È un'altra cosa, lì è un'icona, non è neanche più un attore. Quantunque Jennifer Lawrence è anche molto brava. C'è un sacco di attori veramente bravi che non costano tanto. Mm. Che costano sicuramente meno della Baradan tutto attorno. Questo è un assunto che va preso in considerazione, nel senso, se poi ti dici voglio fare questo perché non ho ancora deciso se voglio mettergli la barba oppure no, questo è il tipico indecisionismo di chi ha paura. Infatti le persone che non hanno paura hanno decisioni molto più dirette e hanno un controllo molto più diretto sull'approccio creativo. E ripeto, io che fare con le agenzie mi riconosco quando c'è un creativo che sa cosa vuole, un creativo che non lo sa, e allora dice giriamo tre versioni della stessa scena con tre attori diversi, poi scegliamo dopo. Vabbè, se vuoi spendere il triplo va bene, però perché tu non sai che cosa vuoi, non sai neanche cosa vuoi. Questa è una cosa, ripeto, per quanto concerne gli sfondi digitali, sono il primo a dirlo, se si può fare digitale che si faccia digitale, costa di meno, quello sì. L'attore digitale non costa di meno, altrimenti adesso non avremmo tutti i film con gente che viene girata dal vero, ma avremo comunque soltanto film d'animazione, e non è così, e credetemi non sarà ancora per un sacco. Vabbè, lì c'è il discorso pure di impatto sul pubblico, dai, è diverso, Alex, non è che poi, cioè io penso una cosa, mo io no guarda, sono convinto anche su quello che dici te, tu sai che per me quello che tu dici, so che tu lo dici perché lo sai, però io dico, se usano cioè una Naughty Dog che lo studio ce l'ha, il sistema del motion capture ce l'ha, tutta la tecnologia che a loro gli serve ce l'hanno, quindi non è che devono andare a affittare, non devono andare a rimediare perché quella volta gli serve e quella volta no. L'hanno comprata e devono ammortizzarla. Ok, però, cioè, voglio dire, alla fine gli conviene molto più così. Altrimenti allora, non lo farebbero. Cioè, non è che sono studi. Ma no, ma io sono d'accordo. Cioè. Se tu dici ci deve essere continuità estetica tra il gioco e le scene di intermezzo, perfetto. Che si faccia tutto col motore di gioco e si faccia motion capture, che si faccia tutta sta abbinata qua. E sono assolutamente d'accordo. Sul fatto che sia più economico, assolutamente no. Ripeto, io la vivo come soltanto un dobbiamo fare le cose che siano continuative. Però le continuative non lo sono, perché comunque ancora oggi, se tu vedi le scene di intermezzo, sono fatte con un motore leggermente diverso da quello del gioco vero e proprio. Un po' più dettagliato, ma è quello. Sì, perché c'è tutto un sacco di altre cose, perché lì puoi scegliere cosa inquadrare e cosa non inquadrare. Lì puoi veramente fregare lo spettatore, perché non c'è l'interattività, l'interazione. Con un'inquadratura controllata, chiaramente puoi anche aumentare il dettaglio. Infatti io quello che dicevo, non oggi, ma se fra 10 anni il motore di gioco, quando si gioca, hanno un realismo praticamente indistinguibile, ma dal mio punto di vista io sarei più propenso come regista, e parlo come regista, a dire giriamo una persona vera e modifichiamo le riprese della persona vera in modo da farle sembrare digitali piuttosto, perché a oggi comunque certe... questo perché l'hai visto su coso? Su Halo? No. No, ripeto, questo è proprio. Fino adesso, tu, quello che vedo al cinema, che lì dove c'hanno ancora qualche soldo in più, grazie, possono fregarmi dicendoti tutto quello che vuole. Ma anche il buon Gollum, quello nuovo, non quello vecchio, per dirvi, quello nuovo. Ma quando ha anche i marker sopra, è un'altra cosa rispetto alla ricreazione digitale. Cioè, ripeto, se no farebbero tutti i film con tutta gente digitale, e non lo fanno perché? Ma perché comunque non riesce ancora a cogliere tutto, e io sono un digitalista di primo ordine, cioè, ripeto, io quando posso giro in green screen qualsiasi cosa, tu lo sai che Simone, che io praticamente la metà degli spot che giro li giro in green screen proprio per avere il controllo massimo sull'estetica dell'immagine. Ma per quanto concerne gli attori, per me ancora si è talmente lontani ed è talmente ancora per certi versi antieconomico, che l'impatto vero della persona vera non c'è ancora. Con questo, ripeto, rispetto la vostra opinione, soprattutto l'opinione del mondo videoludico, che dice no, vogliamo digitale perché è bello così, o perché c'è fusione tra il gioco e la scena di intermezzo. Sì. Per cui, perfetto, però dal mio punto di vista ad avvenire la recitazione digitale, ma proprio ad avvenire, ma tanto tanto tanto, i miei figli forse la vedranno, e io ho intenzione di farli molto tardi. Questo è, po'. Non è, ragazzi, cioè, non c'ho soldi per pagare il mutuo per fare anche un figlio, figo. No, hai ragione. Vabbè, allora, questo è un punto interessante perché, come vedete, ragazzi, ci lasciamo con opinioni differenti, anche avendo ascoltato comunque i vari punti di vista, e sicuramente entrambe le posizioni sono abbastanza ragionevoli, non lo metto assolutamente in discussione. E come ogni puntata di Voyager che si rispetti, noi non vi lasciamo con una risposta, noi vi lasciamo con 100 domande, in modo che siate voi a decidere come la vedete, insomma, e se non ci riuscite sono cazzi vostri. Detto questo, io direi a questo punto di andare velocissimamente nella parte finale della trasmissione. Ok, parte finale della trasmissione, siccome che, come sapete, Dietrologia Videoludica sta facendo una marea di puntate tutte riavvicinate, in realtà non è che ci sono grossi commenti, poi ammetto anche che non sono andato a vedere dappertutto, quindi c'è un commento sul sito di Dietrologia Videoludica del nostro oramai andiamo a periodi, c'è un periodo in cui c'è Morgan, un periodo in cui c'è Game Over, un periodo, vabbè, comunque c'è Game Over che è un nostro fan accanito, no vabbè, ci segue veramente dai tempi di Archeologia Videoludica, quindi ci fa veramente piacere. Poi l'abbiamo salutato anche la volta scorsa perché sappiamo essere tornato da una sua esperienza personale, quindi insomma ci fa piacere il suo ritorno, c'è il suo commento, e dato che Biggio si sta addormentando c'è il commento alla puntata precedente. Biggio, vai, sì, tocca a te, sì, leggi. Il caro Game Over che salutiamo dice: grazie alle nuove piattaforme di digital download oggi gli sviluppatori indie sono molto avvantaggiati per la diffusione delle loro opere e, secondo me, se continueranno a produrre videogiochi di qualità senza cedere a compromessi con le major, saranno una salvezza per il futuro dei videogiochi. Altrimenti, senza di loro, correremo il rischio di avere sempre più prodotti mainstream e di serie e sempre meno videogiochi sperimentali e innovativi. Che dici? Sì. Ecco. Pure io. Okay. Alex? Che devi ecco, dire? Alex. Ma non è una, no, infatti, non è una domanda, sì. È un'affermazione. È un'affermazione proprio. Sì, sì, no, ma poi è talmente precisa. Anche volendo di non mi sta bene quello che hai detto tu, non ci riesco. Il grosso problema è dato dal fatto, come si chiama, adesso vi faccio la domanda tra bocchetto, come si chiamano quei giochi che costano tantissimo? Esatto. Hai mai sentito parlare di un gioco AA? Eppure io me lo so. Ecco, e vedo, questo è il problema. Non esiste nella via di mezzo. Non esistono le vie di mezzo. C'è il gioco da 100 milioni di dollari e il gioco da 10.000 euro. Ma non c'è la via di Deadpool, mezzo. Non c'è il secondo gioco me da è da doppia. Mezzo. Ecco, è quella via di mezzo. Vabbè, per dirti, c'è quella roba lì che si chiama i test che fanno su Kickstarter, che sono dei test ormai a pagamento. Vediamo se questa idea può piacere. Mettiamola su Kickstarter, così ci pagano loro per vedere se sta roba è interessante. Se questa roba supera una certa soglia, ok, allora si può fare, allora ci investiamo. E poi a questo punto diventa un altro oggetto. Però, ripeto, la via di mezzo non c'è, questo non esiste la doppia A. Per cui è questo il grosso problema di questa travetta industria: che ci sono le case di software che fanno i Call of Duty, e ci sono quelli che fanno un titolo di Journey. Esatto, però non c'è la via di mezzo. Sì, sì, è vero, hai detto una. Cioè, o ci sono 500 persone che lavorano su un coso, non ci avevo mai riflettuto. Secondo me c'è la via di mezzo, però. Però commercialmente. Ma basta guardare quanto sta vedendo Luglia, ad esempio, c'è quello, vedi, capisci quanti ordini sta facendo qua console, capisci quanto il mercato indie a tratti è più interessante rispetto a molte cose. Su me. Bisogna pensarci molto attentamente a sta particolare. Eppure io potrei dire una cosa che veramente scatenerebbe l'ira funesta, però sarebbe da parlarne, perché secondo me è il mercato indie è quello più conservatore di tutti. Sicuramente. Perché, non tecnologicamente, cioè nel senso è chiaro che loro puntano a ispirazione, a un'ispirazione e una creatività che probabilmente in tante altre produzioni non vengono messe, però loro... Cioè l'indie si basa proprio sul concetto di gameplay tradizionale, sul concetto di videogioco tradizionale, da quello non se ne esce, cioè quasi raramente se ne esce, insomma. Guarda, in pratico lampante Sonic 4 è un prodotto indie fatto da sottomarca della Sega. Se vedi quello, capisci tutto quanto, quanto loro hanno voluto mantenere il concept perfetto di Sonic così com'era, ovviamente abbellendolo al 100% graficamente, ma per un mercato parallelo, che è quello indie, che non c'entra niente con quello appunto, con quei vari prodotti Sega fatti apposta di etichette Sonic che sono tutte buiate. Quello indie sotto raccomandazione Sega è quello in fede più bello. Che poi cioè, costa cosa, $6, €6.99, ma è un capolavoro di 6 episodi e funziona. È appunto, si rifà all'originale come in struttura, però la gente ha preferito quello a quel nuovo in 3D e tutti belli composti, complessi. Perché in fin dei conti, Metro Indie, come tu dici, è proprio mantenere salda la tradizione col passato, ecco, tra virgolette, è quello. Ebbene ragazzi, avete un motivo in più per odiarmi, insomma, ancora come se non vi bastasse, come il buon Pizzi che viene sempre Pizzi, maltrattato da tutti quanti, anche addirittura dai suoi compagni di viaggio. Noi ci vogliamo bene al Pizzi. Proprio, e se non ci fosse il buon Pizzi, che adesso parla di se stesso in terza persona, quindi la cosa è che c'è dietro. Direi meno male che Pizzi c'è, ecco. Meno male che Pizzi c'è. Vabbè, sugli altri nostri, su iTunes niente, pagina Facebook niente, IPN niente, su Google Plus c'è sempre William Shatner che dice "Aio, malfaga". E quindi andiamo avanti così. www.dietrologiavideoludica.it, giusto? Giusto. Dietrologia Videoludica, ovviamente la pagina che trovate anche su Facebook e su Google Plus. Dietrologia Videoludo è il nostro Twitter, esatto. Mi confermi? Confermo, sono stato bravo stavolta. Dietrologia Videoludica @gmail.com è invece la nostra posta elettronica che quasi mai utilizzate, e se la utilizzate per mandarci degli articoli per poter diventare parte integrante del nostro team, ci fa sempre piacere. Noi sapete che non diamo una lira a nessuno, però insomma arricchire un blog come Dietrologia Videoludica è sempre interessante. Noi vediamo le cose sempre dall'altro lato, dal lato opposto, insomma, da dove le vedono tutti, o cerchiamo di partire su ragionamenti che non sono spesso e volentieri consueti rispetto a tutti i podcast che parlano di videogiochi, che di solito insomma affrontano le tematiche in maniera diversa. Detto questo, non significa che siamo i migliori, anzi spesso e volentieri siamo una manica di cialtroni, ma ci fa sempre piacere essere con voi, e ci ascoltiamo fra un paio di settimane con l'ultimissima puntata che vi lasceremo come regalo ad agosto e che si intitolerà Senza Tracchia. Non vi dico altro e non vi dico il perché, ma sarà veramente una puntata divertente, è la classica puntata di fine stagione, quella un po' cazzarella, dove praticamente saremo un po' tutti insieme a ridere e scherzare. Detto questo, Alex, buonasera a tutti, ciao. E il nostro buon Big Joe, tra l'altro, che ha di recente pubblicato la nuova puntata di Retrocast. Sì, un saluto a tutti e grazie per l'ascolto, Toro. E ringraziamo per il tempo che ci ha messo a disposizione, che insomma ti ha dedicato a questo episodio di Dietrologia Videoludica, il nostro ospite che è Alessio di Ore di Orrore Channel. Andate a cercare su YouTube, iscrivetevi e fate mi piace a tutti i video, perché comunque non solo sono piacevoli da ascoltare e divertenti, ma sono sempre delle recensioni abbastanza puntuali. Poi lo trovate in giro su YouTube anche su altre questioni inerenti al retro gaming, però magari dillo te, Alessio, dove, come, quando e perché. Potete quindi trovarmi su appunto YouTube sotto Ore di Orrore, recensioni di film horror e insomma specialetti così insomma inerenti appunto all'horror retro, e poi nell'ambiente videoludico potete cercare online il blog sito dedicato al mondo del retro gaming, che è appunto The Retro Games Machine, e dove appunto parleremo totalmente di tutto ciò che riguarda l'ambiente ludico e tecnoludico del passato. Quindi per chi ovviamente ama queste retrospettive dedicate al mondo dei videogiochi, potrete trovarmi lì, e in dettaglio potremo anche scambiarsi un po' di notizie insomma riguardante questo ovviamente mondo. E per gli amici di calciomercato.it sappiate che è iniziata una serrata trattativa per far entrare Alessio nella grande famiglia Italian Podcast Network. Lui per ora non rilascia dichiarazioni, chissà, potrebbe succedere qualcosa nel futuro. La buttiamo così a cazzarella e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Geronto Gamers. Porca troia. Ci sono i Geronto Gamers, ascoltateli. Ciao. Ciao amici. E dai, mori, sto fame, mori di mortacci, sei schiattato! Ma chi stai a fare? Ma che roba è? Non si capisce niente, ci stanno scoppi, spari, morti ammazzati, ma che è? E che ne so, in gioco, non so come si chiama, ho rubato a mio nipote! E vabbè, ma di che parla? Qual è la trama? C'è sta uno con una pistola, spara e l'altro, i cattivi, morono! E basta? Ma non c'è uno scopo? Ma perché spara? Chi sono gli attivi? Ma che ne so, io ho acceso e quelli mi hanno cominciato a sparare, spara, spara, io gli ho sparato contro, mica sto lì a guardare, e spara, spara, sono 2 settimane che sto a sparare. Ma c'è un filmato con qualche cosa? No, non c'è sta niente. Mamma mia, come siamo ridotti. Manco più un filmatino, una trametta. 2 righe prima di cominciare le partite. Ma ti ricordi i bei videogiochi di una volta? Ti ricordi? E come no? Che storie! Pareva di guardare un film. Era un'emozione prendere il pad in mano, come quello là, quello lì di Cage, là, Heavy Metal, come no, mi ricordo che bel gioco, che storia intrigante, piena di mistero, come solo una volta sapevano fare. Ma ti ricordi come finisce? Com'era emozionante? Come no? Che Shepard muore, ci sono rimasto tanto male. C'hai ragione, pure io. E cosa, quello con l'uomo, quella bambina, come la dico i funghi, coso? I funghi, Mario, sempre Mario. Mario, sì, bravo Mario, beh. Che pathos, che medesimazione. Non li fanno più i giochi come quelli, cioè, oggi sono tutti boom, boom, spara. Una volta sì che creavano esperienze, no, quelle robacce senza senso che fanno adesso. Vero. Una volta c'erano autori con la A maiuscola, dei creatori seri, gente che faceva avventure vere, costruite dalla A alla Z. Senza lasciare nulla a caso, c'era gente che era capace di scrivere un gioco, non di programmarlo e basta. C'hai ragione, non ci stanno più i creativi della morta. Per fortuna, a me mi basta spegnere due pulsanti, muove una levetta, spruzzi di sangue, a me, alla fine della storia, non me ne è mai fregato niente. Guarda, manca a me.